Thank you. sulle note meravigliose di questo rock che non finisce mai di eccitarci, di farci bagnare tutti. Alla fine cosa succede? Succede che ce ne andiamo in onda anche senza la presenza di un uomo che dovrebbe essere importante, ma noi non ce ne frega un cazzo. Runtime Radio presenta Ottimisti genericamente mortificati. Come on everybody, welcome to OGM, Ottimisti genericamente mortificati, qua su Runtime Radio con me, Simone Gusella. Ciao, ciao. Mantenere al nato, Gusella? No. Ancora stai qua? Sì, ci vediamo poi dalla Scozia, ci sentiremo. Dalla Scozia, va bene. E poi c'è la portata di pasticcini buoni. Buoni pasticcini, Walter Sbano. E io lo sapevo che prima o poi sarebbe successo che iniziavamo la diretta senza Gualdi. Però permettimi, prima di ogni altra cosa, ferma la base. Ferma la base. Aspetta. E facciamo tanti carissimi auguri a Stefano che in chat ci dice: buonasera a tutti, sto festeggiando con la mia lei perché ho saputo che diventerò padre e vi ascolterò domani. Un applauso. Bravo, bravo. Ma chi te lo fa fare questa cosa? Comunque siamo contenti di dire, così d'anteprima, di fare gli auguri a una creatura che verrà. Non sappiamo quando, ma verrà insomma, verrà. Bravo, complimenti a te e la tua lei. Noi non l'avremmo fatto questa cosa, no, insomma. No, io non lo dovrei dire al microfono, ma no, istinto perché... paterno zero, quindi. No, ma poi abbiamo proprio accuratamente evitato, cioè, gente che si è fatta proprio levare... Vasectomia a 18 anni, per non sbagliare. Esatto. Guarda, a me manca un pezzo per fare il bambino. Quindi. Manca un pezzo. È arrivato anche Gualdi, visto. Marco Gualdi! Eccolo! Aspetta, ma ti mancano i testicoli o ti manca il membro? Non ho capito. Diciamo che mi manca il forno per me. Stefano, il nostro fedele ascoltatore. No, Sentite, quelli che fanno le pulizie e quelli che non chiudono la porta e intervengono durante la diretta, ma va bene. Pensavo che era Sbano che diventava padre. Sì, io ho appena finito di dire che non dovrei dire al microfono una cosa del genere, ma io istinto paterno zero, perché ma proprio adesso... Comunque, già che siamo in tema, io diventerò Spirito Santo. Però Walter ha uno spirito materno. Sì, no, ma guardi, vai a parlare dall'altra strada. Al massimo ho un po' di lievito madre. Accendi la luce, metti la luce d'atmosfera, facciamo... Guarda, siamo pronti, ragazzi. La prima luce che capita, pronti? Va, questa. Gialla verdognola, bello schifo. Merda. Vabbè, spegniamo la luce, chiudiamo la porta e benvenuti, quindi... Benvenuti, la luce. Vabbè, fatemi salutare anche gli altri amici in chat che ci hanno raggiunto, perché c'è Davide Gatti, c'è Lobby Frontali e c'è Runtime Radio addirittura, che ci ascolta. Chi è quello? Non so, è una specie di loop spazio-temporale in cui ci ascoltiamo da soli. Ragazzi, ho i nuovi occhiali! Un applausone anche bravo. Per questo, insomma. Finalmente vede le stronzate che facciamo, esatto. È incredibile. Dopo 20 anni riesco a vedere le righe diventano lettere, ragazzi. Guarda, l'importante è che non ti fai l'apparecchio acustico, perché se cominci a sentire le stronzate che diciamo, poi alla fine ti mortifichi. È vero, infatti, esatto. Ma tanto non le capisce come noi, cioè, non capiamo assolutamente ciò che diciamo. Bravo, io c'ho la... dentro sento le cose. Tra le vibrazioni tramite le ossa. Va bene, e comunque questa, ecco, allora, questa ufficialmente è l'ultima puntata di Gusella. No, anche poi, noi pensavamo che era la scorsa settimana. No, pure questa settimana sta due volte l'ultima puntata. Ragazzi, secondo me c'è stata a fregà. C'è stato anche coglionato, dice. Ma io allora a questo punto faccio 20 secondi di silenzio. Ecco, non sono 20 secondi di silenzio, ma è come se lo fossero stati. Per noi sono stati anche di più, esatto. Va bene, ragazzi, prima di iniziare col vivo di questa trasmissione, che sarà pregna di argomenti importanti, vi ricordo due importantissimi appuntamenti della prossima settimana. Due specialoni di quelli diretti di Runtime, quelle vecchio stile, dove c'è un po' di tutto, si fa cazzabuia, e uno è lo speciale su Star Trek e uno è lo speciale su Indiana Jones, perché ricordatevi Indiana Jones, qual era il film? L'ultima crociata, bravo, che è quello con Sean Connery e via dicendo, ha compiuto 30 anni, e quindi noi... Sean. Sean Connery, Sean. Che Sean. Ne approfittiamo Sean. Perché poi tra l'altro bisogna fare il coccodrillo anche, perché Connery è morto. Non ancora. Oddio, da qui alla prossima, allo speciale non è detto. Esatto. Ma lui ci ha detto che moriva. A parte il fatto che è uno che non fa parlare di sé praticamente da dopo aver girato La Lega degli Straordinari Gentlemen. E c'è anche un motivo. Potrebbe, diciamo che la senilità ha preso il sopravvento, però magari... Ma secondo me sta legato al letto da non si sa quanto. Ma chi lo sa. Però quello che voglio dire io alla fine è questo, che ricordiamo, importante... Indiana Jones, l'ultima crociata, è l'ultimo film di Indiana Jones. Poi magari la prossima settimana lo ribadiamo, vero? Ne sono stati altri dopo? Sì, alcuni. No, c'è un film apocrifo che è stato fatto da una compagnia indipendente, tra l'altro con una... Scusate. Fa partire cose a cazzo. Meno male che sciocchiare, infatti, sì. Preso con un attore che tra l'altro neanche assomiglia per niente a Harrison Ford. Vabbè, questo è successo pure su Han Solo, di cristallo, ma una cazzata. Tu dici quello, no, quello gli assomiglia a Harrison Ford. No, non c'entra un cazzo. Io però vi voglio dire una cosa, mo adesso poi ne parliamo, perché allora ribadiamo, 23 maggio speciale Star Trek sulla stagione Discovery. Aprile. E invece il 24 maggio, quindi la sera dopo, tutte e due le occasioni alle ore 21, ci sarà lo speciale su Indiana Jones. E quindi ecco, ci dicono che il 24 maggio compie 30 anni, quindi noi un mese prima, per portargli un po' sfiga, diciamo che... E se no, guarda, siamo istrionici, rimandiamo lo speciale di un mese, non è un problema. Ma chissà che succede fra un mese. No, oramai abbiamo pure fare il coccodrillo. Abbiamo più probabilità di fare il coccodrillo con un mese in più. Vabbè, no, però io l'abbiamo programmato. Tra un mese magari non ci sarà più qualcun altro di noi. Tipo tu, per esempio. Tipo Guardia, non so, va ad andare a lavorare in Scozia. No, Guardia al massimo si opera, ma poi torna. Va a lavorare in Scozia perché va a fare il badante di Sean Connery, giustamente. Certo. Oddio, che brutta scena mi sono immaginato. No. Guardi che alza. Che signor Sean, che gira Connery da una parte e cambia il pannolone. I'm shit everywhere. I'm shit everywhere. Vabbè, comunque, gran signore, gran signore. Sì, come no, signorone. Però peccato che non se lo ricorda più. Ok, comunque, 23, ricordatevi, speciale Star Trek, 24, speciale Indiana Jones. Quindi OGM la prossima settimana si trasforma in i grandi speciali di Runtime Radio, come ogni tanto succede. Ma siamo sempre noi, quindi fondamentalmente non cambia. E continuiamo a dire cose a caso, perché come al solito la scaletta è pregna, insomma. Ma vogliamo abbiamo un argomento, ma vogliamo spiegare, voglio dire, di solito l'argomento topico si introduce, quello che dà il titolo alla puntata si introduce dopo, nel momento dopo. Più caliente, ma io vogliamo... non ci ho capito un cazzo, infatti spiegate, ma... ragazzi, ma oggi torniamo a parlare, non abbiamo un jingle per Cassano, vero? Però ne abbiamo uno dell'angolino dello sport. Sì, abbiamo quello dello sport, quello tradizionale, e io direi di lanciarlo, perché poi così entriamo. Ho capito, quindi tu adesso mi stai chiedendo mettere l'angolo dello sport. L'angolo dello sport. Ecco, è un proprio bellissimo modo per rientrare in diretta. Mamma mia, la professionalità ci galoppa dentro le vene proprio. Bisogna insegnare che in questi casi devi morire. Una volta morto puoi fare quello che puoi. Voi ricordate, ragazzi, che l'anno scorso, insomma, Antonio Cassano era spesso e volentieri protagonista con noi di OGM, poi si è un po' acquietato, si è rassegnato al fatto di non giocare più a calcio, quindi era uscito un pochino dagli onori delle cronache. Beh, però è rimasto nei nostri cuori. Calcio, ha detto che tra tutte le offerte che gli sono state avanzate nessuna lo ha soddisfatto appieno, e quindi preferisce non giocare piuttosto che giocare per una squadra e per un ruolo che gli compete. Certo, perché la Virtus Torre Maura non era abbastanza per lui. No, cos'è successo? Però è successo che Cassano, il buon Cassano, è indagato a Genova per resistenza al pubblico ufficiale. Al pubblico tutto. A tutto il pubblico. Sostanzialmente questo è successo l'anno scorso, però la notizia è venuta fuori soltanto ieri e noi quindi ce la siamo immediatamente sparata. No. Perché praticamente l'ex attaccante era alla guida della sua macchina, è stato fermato da una pattuglia della polizia locale, quindi attenzione, neanche la polizia locale, i pizzardoni, per eccesso di velocità. Spiega, il pizzardoni non è un termine universale. Il vigile urbano, il ghisa. Perché si chiama pizzardone? Perché indossa la pizzarda. Perché si chiama il ghisa invece? È la felpa con la pizza sopra. Perché si chiama il ghisa? a Milano. Che ne sai? Perché hai piedi pesanti, piedi di piombo, di ghisa, quindi... Ma va, cioè, piedi... Una vabbè, volta se erano... c'è un milanese... Una volta erano i cieli di piombo per l'ispettore Callaghan, però vabbè. Beh, sostanzialmente, insomma, quindi l'hanno fermato per eccesso di velocità a Nervi, in provincia di Genova. Secondo l'accusa, Cassano sarebbe sceso dall'auto e avrebbe cominciato ad inveire, ad insultare i vigili, strappando persino dalle mani di uno dell'agente il libretto col quale stava facendo il verbale. E a quel punto è scattata la denuncia. Il procuratore aggiunto nei prossimi giorni invierà il decreto di citazione a giudizio. Il legale di Cassano, l'avvocato, vabbè, Pietro Biogoglio, non è importante, Dogoglio, ha già fatto opposizione contro la multa. Beh sì, è giusto, beh, certo. Ora, capite, invece l'avvocato che fa l'opposizione alla multa. Magari per 50 euro di multa, ragazzi. La notizia di per sé non è neanche una gran notizia, però è proprio che noi ci siamo affezionati. Siamo, sì, noi qualunque cosa fa Cassano, però la vogliamo questa... sapere. È una notizia vecchia, c'è una notizia di un anno fa, quindi dall'anno scorso in cui faceva di tutto. Nel frattempo è maturato. È fatti, deve essere cambiato profondamente. Allora, sai qual è la cosa? Secondo me è pronto per giocare in nazionale e alla Juve. Guarda, proprio tanto alla Juve, ormai voglio dire, il provincialismo del provincialismo. La Juve stabia, lui intende. La Juve stabia, sì, esatto. Di cui Ciro Immobile è presidente, quindi potrebbe, magari sono amici. Pensa che giro. No, volevo dire che però potrebbe prendere esempio, perché adesso lui con i vigili urbani ha avuto questa escandescenza, ma potrebbe eventualmente prendere esempio da un fatto che è avvenuto oggi a Gallarate. Gusella, dov'è Gallarate? Dove alla richiesta delle generalità salutiamo Piergi, ciao Piergi, un indigeno di Gallarate, no, è un giovane marocchino di 22 anni. Ah, era marocchino, questo sì, non ho visto, quindi un giovane marocchino, quindi non indigeno, di 22 anni, gli hanno chiesto i documenti non perché fosse ubriaco a Gallarate, ma perché era marocchino, certo, esatto, chiaro. E lui cosa ha risposto? Grosso modo, così, esatto, infatti, gli hanno chiesto la generalità e lui ha risposto to con un rutto. Cosa hanno fatto i carabinieri che sono assolutamente... è come Gusella, cioè, esatto, è un po' Gusella. Se non fosse... esatto. Se non fosse che è marocchino, Gusella potrebbe tranquillamente essere fermato dai carabinieri. Pure Gusella è un po' marocchino a volte. Sì. Ora, però, io vorrei dire, secondo voi, no, come potevano reagire? Secondo me sono stati un po', antisportivi i carabinieri. L'hanno arrestato. No, perché dopo che gli ha fatto il rutto in faccia è scappato via. Quindi i carabinieri. Ma non è che l'ho pure colpito. Non è quel tizio su YouTube che va in giro ruttando su la gente. Il no, mito, no. Il mito, no, non credo, perché secondo me si è visto troppi video del tizio comunque. Ma io avrei spiegato che avevo appena bevuto una Coca-Cola insieme ad una Mentos ed è stato un momento incontinenza, diciamo. Questo tizio era già stato arrestato tempo fa, durante San Valentino, perché era stato beccato proprio a San Valentino mentre rubava in un negozio di cosmetici, e praticamente quando lo hanno fermato non aveva il rutto in quel momento brutto, però ha risposto che ha fatto quel furto gesto. Nel gesto del furto nel negozio di cosmetici, perché aveva troppe fidanzate a cui fare regali, quindi è una persona insomma stabile di mente. No, scusate, sentite che Piergi secondo me in un'altra vita era un avvocato, perché ha dato una definizione di Cassano che è tenerissima. Dice Cassano: un grande talento rovinato da un carattere un po' troppo esuberante. Ma cioè, ma io comunque, raga, ha fatto delle grandi cose, ma io sto tutto sta staffato verso Cassano, che ho sempre sentito negli anni, non ho mai capito. Allora, adesso io faccio una domanda provocatoria, ma vabbè, tutte queste grandi cose. Provocatoria. Quali? Beh, io mi ricordo sempre quando giocava al Bari, quel contropiede che ha fatto da solo contro l'Inter. Insomma, no, ma io poi l'ho vista, no, in diretta. No, per carità, cioè, mi rendo conto, cioè, c'aveva delle perle, però sì, cioè, alla fine tutto da stare così dietro, no, perché poi... D'altra parte, se le alternative sono poche, ne convieni con me, ma d'altra parte, ieri abbiamo visto per l'ennesima volta, facciamo così, la divagazione calcistica... No, non lo dire, di quanto non lo sia dire. Povero il nostro calcio. Non lo dire. Però dobbiamo dirlo, perché in realtà c'è un bellissimo meme che gira, che lo mamma possiamo mia, tranquillamente ragazzi. Raccontare, che parafrasandolo è giunta voce, infatti, che sembra che Theresa May abbia assunto uno specialista per uscire dall'Europa. Abbia che sono consulenza, esatto. E cioè all'Allegri. Quindi... Ah, Massimiliano Allegri, che sembra che sia abbastanza titolato per riuscire ad accompagnarla fuori dall'Europa, però vediamo un po'. Vabbè, comunque, se tornava al tizio marocchino che ruttava addosso alla polizia, io non so se, vabbè, voi non ve lo ricordate, ma forse Walter se lo ricorda, molti anni fa, diciamo una quindicina di anni fa, a Campo dei Fiori, tutte le sere, c'è stava quel negretto che strabuzzava l'occhio, ve lo ricordate? Che negretto non va a fare? Eh? Sì, Micheletto che il negretto non va a fare, sì. Vabbè, cioè, c'era sto tizio che andava pure in televisione, mi ricordo. Non so, andava la Maurizio Costanzo a far vedere gli occhi che gli uscivano fuori dagli occhi. Ma una ragazzi, una cosa che fa abbastanza inquietante. Mi faceva proprio schiaffi. L'ho incontrato anche io una volta che lo avevano cacciato malamente da un locale. Sempre, se lo piavano a calci in culo tutti. E lui si rialzava e tirava fuori gli occhi. Era bellissimo, ragazzi. Ma io veramente gli ho detto, ma una volta qualcuno avete cazzotto su un occhio mentre che ce l'hai di fuori. No? Che cosa succede? Ma voi immaginate, che è una cosa incredibile. Avete presente i cartoni animali quando i protagonisti ci riescono fuori gli occhi, sì, no? Una cosa immaginate, ma ci sono questi casi, sì, esatto, cioè anche ci sono era tipo un'anomalia genetica che lui ha fatto come posso dire, ha trovato, che non serve a niente, non serve a niente, morto, però, no, esatto, però lui l'ha fatto, che ne so, cioè, l'ha per fatto esempio voi lo sapete mezzo? Che c'è una sorta di automatismo del corpo umano che garantisce che quando attento di quale automatismo parli, attenzione. No. Metti che quando starnutiamo non ce l'ho. Nel momento dello starnuto automaticamente senza poterlo evitare neanche volontariamente si chiudono gli occhi, esatto, perché altrimenti uscirebbero dalle orbite. Ah, che bello. Sì. Adesso ci voglio, adesso fa come in Arancia Meccanica, praticamente si fa bloccare gli occhi aperti e si fa provocare lo starnuto. Appena riacquisito la vista, non ti conviene farlo. Dopo 20 anni finalmente ho un paio di occhiali che sono limpidi anche, soprattutto. Pizzi, quante sono queste? Bravo, vedi? Due belle palle sono. Dentro di me lo definirei un testa di K, fotonica. Ma oggi mi sento buono. Questo è sempre Birgi che è rimasto ancora a parlare. Adesso però è meno avvocato. Adesso è un pochino più. Esatto. Ma noi siamo andati avanti due argomenti nel frattempo. No, io volevo approfittare, ragazzi. Potrebbe essere l'ultima volta, vero? Almeno in diretta ai microfoni di Runtime Radio. Quindi... Potrebbe, sì, diretta ai microfoni proprio diretti. Quindi? Gusella, è meglio. È meglio una panza calla in culo, un culo calla in panza. Bravo, bravo. Ok, bravo. L'hai detta, ma qual è meglio? No, tutte e due, mi sembra abbia si sia espresso per parità. Dipende da come ti svegli, da cosa hai bisogno in quel giorno. Esatto, anche da chi sei, che è importante questa cosa. Sì, certo, se ti svegli un po' Natasha. Momento triste. Io, no, però ragazzi, cioè, tristezza. Ma io però posso dire una cosa, che un po' l'ho già detto, un po' mi dispiace, perché mi ero abituato. Ma io faccio così, registro un po' di frasi mie. No, non c'è frega a caso. Guarda, è l'unica cosa che non mi mancherà, le stronzate che dici. L'unica cosa che potresti fare è una skill di Alexa, con le tue frasi. Alexa, no, ma per carità, come sta Gusella? Parte una frase tua. A cazzo. Facciamo la battuta, il bot, Gusella dice. Tanto te la provano sempre le skill. E lo mettiamo sui gruppi Telegram, il bot Gusella dice. Se mette Gusella dice, gliela provano perché è tutto in italiano, quindi non c'è confusione. Esatto. Invece a parte, se scrive Gusella speaks. Se invece, a parte, potrebbero bocciarli, invece, no, che no, cos'è Gusella? Mi piace, direi, scusate, no, per par condicio, facciamo il bot Telegram, perché almeno ne possiamo gioire tutti quanti. Ma come qui si non fa tutti... a un bot Telegram? Si fa, non è un problema. Ci pensa Maguta. Cioè, pensa Sbano, ragazzi. Si sbotta. Il Sbano ti sbotta. Il bot Gusella dice sarebbe fenomenale. Infatti. Ci devo ragionare, sì. Perché vabbè, ieri, mentre eravamo dal cinese, lui dice che a un certo punto ha detto che lui suda dentro. Ah, era perché eravate dal cinese che ha detto questa cosa? Lui dice non suda fuori, lui non c'ha pori per sudare, lui suda dentro, ha detto. Perché c'è Mercedes. Oddio, cosa fai? Ma poi basta, cioè, ma poi fosse silenzioso. Come un fantasma. Scusa, ma me la licenzi? Con la torta in bocca. Ha provato a essere silenziosa, però. Però non lo sei. Ma quindi... dove si porta la bacinella via? Che sai? Ci porti da bere, per favore. Stende pub, per favore, abbiamo bisogno di bere. La mattina, non la sera prima di andare. È vero, a dormire. No, no, anche perché l'umidità non li asciuga, ecco. No. A proposito, ragazzi, dopo, quando parliamo di televisione, queste cose qua, io vi devo fare una domanda. Ieri sera ho avuto l'infelice, col senno di poi, infelice idea di guardare Black Panther. Perché l'hai fatto? Perché ho detto, vabbè, sì, sarà cioè era l'unico film dell'MCU che non avevo visto, in attesa di vedere Avengers Endgame. Ma essere in lingua originale? No. Fatto male. Ma pensa un po'. Vabbè, comunque... Io, bro! Io parlavo tutto col negativo. Ma perché vuoi? Cioè, no, beh, ragazzi, allora, c'è un senso, in realtà. Ho capito, ma un paese africano nascosto da... celato agli occhi dell'umanità, esatto. Quindi anche isolato dal resto del mondo... No, e non io è più. Isolato dal resto del mondo, vedi? non hai capito un cazzo. Non hai capito un cazzo. Non è solo da so anche fanno finta, esatto, fanno finta di vivere di essere pastorizia. Poveracci. Esatto. Quindi è stata gentile Mercedes. Quindi se prendono i contributi della FAO, i contributi delle Nazioni Unite, perché poveri disgraziati, invece questi hanno le astronavi, sì, capito? Sì, però io quello che vorrei capire una cosa, ecco, visto che ormai ne stiamo parlando, ve lo chiedo. Parliamo, adesso. Allora, cioè, al di là del fatto che tu, se io fossi afroamericano, tutti gli stereotipi usati in quel film. Tu sei afro? Frongia il no, dicevo, al di là degli stereotipi che secondo me veramente hanno ridicolizzato una cultura nel tentativo di come dire di nobilitarla, l'hanno resa veramente ridicola, però questa è un'opinione personale. Ma la domanda un po' più, diciamo, futile è questa. Questo stato che è un fazzolettino di terra, questo Wakanda è piccolino, no? Perché si espande dall'alto verso il basso. Abbiamo capito che c'ha questa ipertecnologia evolutissima. Sì, è lo stato più... dell'altro mondo. Aspetta, dai. È lo stato più evoluto della terra, l'abbiamo capito, grazie al fatto che solo sì, nel loro territorio c'è il duranio, che è questo metallo che è pieno di proprietà. Il duranio? Il duranio, sì, esatto, sì. È il materiale con cui è fatto lo scudo di duranio. No, è vero, il vibranio. Il vibranio. Non diciamo di cosa è fatto il duranio. Il vibranio, però che è l'antico. Ma il duranio c'è pure Star Trek comunque. No, allora mi sono confuso con quello. Vabbè, il vibranio, che è il materiale più duro della Terra, con cui è fatto anche lo scudo di Capitan America. Assorbe qualsiasi forma di urto praticamente. Urto. Quindi assorbe qualsiasi onda cinetica, energia. Faccio dire che Black Panther ha vinto 2 premi Oscar. Sì, credo di per la colonna sonora. Un premio Oscar. Per la colonna sonora. Abbiamo quindi questo stato che c'ha questa ipertecnologia che ovviamente tiene celata, però loro sono veramente un fazzoletto di terra, sono, che ne so, poche migliaia, decine di migliaia, centinaia di migliaia di abitanti, estraggono perché hanno queste miniere sotterranee che si sviluppano in verticale con i treni ipersonici che si riempiono di vagoni di tutto questo materiale, lo estraggono, che cazzo ce fanno? Sapessi, ce fanno... E dove lo mettono? I cazzi di vibranio che fanno. Che sono e rivendono tutto il sono mondo. Richiestissimi. Anche, sì, insomma, pure su Amazon. No, ma tu ti stupisci di questa cosa quando c'è, cioè, nello stesso universo, quindi nello stesso... non è che ci sta Atlantide, ma ci stanno ben 5 civiltà sottomarine di cui nessuno si è mai accorto. Quali del cazzo? Che cazzo? Ah, no, quello però aspetta, non è Marvel, è DC. Tu non stai parlando di Aquaman, vero? Ok, sì, stavo parlando di Aquaman. No, vabbè. DC. No, effettivamente. Perché, tra l'altro, abbiamo iniziato a vederlo, abbiamo visto la prima metà. Di che cosa? Di Aquaman. Ma abbiamo detto metà. Anche più di metà. Aquaman non ce l'ho ancora fatta. Però dopo Justice League non fa manco schifo rispetto a Justice League, è quasi un capolavoro. Esatto, cioè, sì, no, ma poi a me fanno schifo tutti, quindi no, io sono preoccupato della io non riconosco a Jason Momoa una particolare a chi? Come dire? Jason Momoa è una particolarità, una particolare qualità recitativa, insomma, no? Allora dico, simpatico. Ma perché l'altri, dai, su, ma di che stiamo a parlare? No, ma dico, Justice League veramente è la presa in giro di Avengers. Oltretutto, vabbè, mo perché tu fai il tifo per Marvel? No, in realtà il mio è tutta merda. Il mio fumetto americano preferito, posto che mi piacciono poco in generale, il mio fumetto americano preferito è sempre stato Batman. Per cui, in teoria, Batumanu, che è giapponese, Batman 2092, Batumaru, cioè, Ninja Batumanu. Esatto, Ninja Batumanu. Però voglio dire, Zack Snyder avrebbe potuto far meglio. Gliel'hanno levato dalle mani perché stava a fare effettivamente una cagata. L'hanno fatto finire a Joss Whedon, che l'ha peggiorato probabilmente. Perché... Ma cosa? Justice League. Ah, ok, scusa, mi mancava il soggetto. Chiedo vegna. Pensavo Justice... che stava parlando. Sì, però basta. Gli abbiamo già spostato. Allora, parlavi di Black Panther. No, ma la domanda di Black Panther era questa. Ma tutto sto materiale che estraggono, che ci fanno? Ti ha risposto Marco. Questa è. Invece su Aquaman invece è figo, perché praticamente, cioè, nel senso, è sotto i soliti film. Solo che almeno lui è un po' stronzo. E quindi al video te parite. Cioè, nel senso. Bello, perché anche sott'acqua le cose esplodono. Esatto. In una palla di fuoco, non si sa. No, ma in realtà che esplodono ci può anche stare. Sì, ma il problema fiamme, è esatto. Quindi, cioè, le fiamme me le sono perse. Dove erano le fiamme? Scusa. No, vabbè, c'era un par di esplosioni. No, c'era quando arriva il sottomarino. Vabbè, la fiammata c'è, tra virgolette, il lampo di luce non è una fiammata. No, vabbè, ma poi non è che, cioè, fino a che mi dici un fuoco che arde lo posso capire, ma un'esplosione anche con con l'esplosione di plasma, insomma, diciamo così, cioè sott'acqua ci manca sta. Beh ragazzi, viviamo nell'era del lens flare, che e fai, poi ecco, no, non c'era il lens flare, no, infatti no, qui hanno evitato proprio. Strano, perché nell'acqua si propagavano bene, sì, infatti, però infatti non è stile di C, loro si vogliono fare più cupi, più dark, esatto, di questa... però invece in realtà... con Gusella abbiamo visto Spider-Man un altro universo, finalmente un altro, visto... Giganverso, no, quello un altro. Un altro universo, proprio un altro universo, che praticamente è questo film d'animazione non di è Sony. Un nuovo universo. Che io definirei no, Spider-Man non c'è verso. No, quello non che era penso fatto da Studio Universal. No, allora che cazzo dici? È Sony Pictures Animation. A parte che Studio Universal vabbè, l'hanno chiuso. Ah, hai capito. È una battuta. Ah, Universal per gli universi. Anche okay. Vabbè, non la voglio capire perché c'è. Poi dice e questi perché... sono i momenti in cui poi sono contento che te ne vai. Che se va via con no, Gusella, poi sei anche contento. Ah, scusa, esatto, sì. Ma poco, Gusella, sì, non è che te ne puoi andare oggi? Sei sicura che devi restare? Ho ancora tanti culi calli da riempire con la mia panza calda. Che bello, mamma mia, che brutto. E poi che lo riempie con la panza. Gli manca qualcosa. L'ha detto prima, tu non so se eri ancora arrivato. No, non credo. No, sì, la frase sì, l'ho vista, l'ho sentita. L'ho anche vista con i suoi. L'ho vista con le sue. Lui vede le frasi. Marco Gualdi vede le frasi. Vede le frasi morte, sì, esatto. Vabbè, di che stavamo parlando? Ah, sì, di Spider-Man. Oggi de fuffa. Questo carino, molto carino. L'animazione è molto bella. Cioè, veramente cioè, comunque l'animazione 3D, ragazzi, ormai spacca proprio. A livello espressivo, a livello proprio d'animazione complessiva, movimenti di camera. Veramente bello, bello, bello. Beh, già 10 anni fa. No, beh, ma mo stavo un pezzo avanti, raga. Cioè, 10 anni fa, grazie al cazzo. Però, ovviamente, insomma, ogni volta. Diciamo che siamo. È sempre uno step. Sì. È uno step. Come step dico sempre, più, siamo insomma a un passo dal momento in cui pagheranno per lo sfruttamento dei tratti somatici di un attore. E poi i film non li faranno più gli attori in carne e ossa, perché faranno tutto. Beh, questo lo fanno per i videogiochi. In però, digitale. No, beh, d'altra parte, dopo aver visto quanto sembrava vero la ricostruzione di. Come Bojack. No, dicevo, dopo aver visto quanto era impeccabile la ricostruzione di Samuel L. Jackson giovane in Capitan Marvel, veramente manca poco. Beh, ma voi ve lo ricordate com'era quel cartone animato sempre Sony, cartone animato, sempre quel film d'animazione Sony sempre in 3D, quello là sul treno, sul Natale, com'era? No. Polar Express. Quello è di Robert Zemeckis. Sì, ok, ma tutto in motion capture, tutti i personaggi disegnati su Tom Hanks, peraltro. Cioè, nel senso. Vabbè, oh, però lì, guarda, le espressioni erano molto belle. Però l'animazione era rigida, erano legnosi i personaggi. Un po' cartunato. Ma secondo me. Però stavo dicendo un'altra cosa. A proposito di ricostruzioni, di ringiovanimenti, quelli della Marvel, comunque, magari per una questione di soldi o altro, comunque sono molto superiori di quelli della DC. Perché abbiamo visto un Temuera Morrison in Aquaman, il ringiovanito, che era di legno praticamente. E chi? Temuera Morrison. Arighi? Temuera Morrison. Temuera Morrison. Voi lo ricorderete più come altro come Jenga Fett del episodio 2. Sbobba okay. Fett. Che il Jenga Fett, appunto. Jango Fett. Jenga il gioco, le torri. No, Jenga. Non era Jango Fett, è Jenga. Boh, me lo ricordo. E praticamente, ed era anche il protagonista, il marito percussore, chiamiamolo così, di Once Were Warriors. Se dicevi Once Were Warriors, forse capivo subito, ok. No, io mi immagino di più che lo riconoscesse come Jenga Fett. Comunque, in ogni caso, è stato ringiovanito. Ma sembra, ce la faccia di un, che cazzo ne so, di un Lego? Ascolta, cioè, Lego? Scusami, la DC non è riuscita a togliere due baffi del cazzo a Henry Cavill. Ma quella è più difficile. No, insomma, dai. Ti chiami DC è più difficile. Capito, per quel livello ma lì. Ma soprattutto abbiamo visto anche la Nicole Kidman ringiovanita. Molto ringiovanita. La domanda, allora, che in Aquaman c'è Nicole Kidman. Poi deve pagare il mutuo pure lei a un certo punto. Ringiovanita, però a quel punto, da un certo punto però, dicono su tutti che è morta. Però perché rifai, utilizzi all'inizio del film Nicole Kidman ringiovanita e poi dici che è morta? Perché già sicuramente sai che dovrà tornare più vecchia. Cioè non ho capito bene, però. Se tu cominci con no, lui ha detto, se tu prendi l'attrice. Sì, fammi lo spiega un secondo. Se non ti capisce, te lo spiego io, se ti dico. Allora, che non nel film ci sono Temuera Morrison e Nicole Kidman, giovani, ok? Ok. Perfetto. Nicole Kidman, dopo qualche minuto, ti viene spiegato che è morta. Allora, Temuera Morrison ritorna nel film perché si praticamente era un flashback, quindi ritorna invecchiato Ma Nicole Kidman, se è morta, che cazzo la devi fare a ringiovanire? Che l'hai ringiovanita a fare? Perché evidentemente il protagonista dove... prendi l'attrice più giovane per quella parte. A meno che... in realtà... deve ritornare... da un'altra parte. Perché esatto. Noi abbiamo visto solo metà del film. Esatto. Quindi, ah, vabbè, ho capito, ragazzi. Voi state giudicando senza aver visto neanche la fine. Però, esatto. No, no, allora, lui no, si è no, fatto no. la domanda. Non è perché devi prendere un'attrice di una certa età per fargli fare... Ma l'hai detto, basta, andiamo avanti. Esatto, la domanda è se perché probabilmente... Però così ti spoiler. Sì, ma la domanda è a cosa serve? No, cioè, ti sta spoilerando una cosa. Comunque, al 27esimo del primo tempo, tra Manchester City e Tottenham, 3-2. Cioè, questi hanno fatto 5 gol in 25 minuti. Mentre noi parlavamo di cazzate. Pazzesco. E adesso, adesso non saprei capire chi si è qualificato in questo momento, perché come era andata a finire l'andata? Non ne ho idea. Bene, vabbè, poi dopo andiamo a cercare. Comunque, sempre nell'ambito usciamo dall'ambito supereroistico. Usciamo per un attimo dal mondo del pallone. Scusate, c'è qualcuno che parla, è il Gualdifono. No, sono i maledetti Arts che partono, partono a cazzo. Gli partono i porno. No, vabbè, mentre nell'ambito, che... diciamo, supereroistico, fumettistico, c'è un altro, dove abbiamo entrato nella fase Trump a questo punto, perché c'avete qualche cosa da dire su Trump? Se no, diciamo, una cazzata al volo. No, senza che mi querelano? No, senza che te querelano. No, sul fatto che Trump praticamente gli hanno un po' rotto il cazzo quelli della Warner Bros. Perché durante uno dei suoi filmatini che posta su Twitter, sui social, perché lui social... fa pure i filmatini, non so. I filmatini, praticamente ha usato come colonna sonora le musiche del Cavaliere Oscuro. Capito? Bello, però non c'è l'autorizzazione. Come so, ma a Trump hanno praticamente ha più diffide ad utilizzare materiale di vari artisti e case produttrici Trump. Lui... anche artisti come lo stesso Bruce Springsteen e altri gli hanno tassativamente vietato di usare le loro canzoni in comizi, campagne elettorali, eccetera. Sì, lui, vabbè, ma lui l'ha usata. Infatti, la Warner Bros. Gli ha detto: guardate, forse non è il caso, gentilmente. E lo hanno rimosso il video dopo un pochino, perché giustamente... certo. No, vabbè, ma perché di base Trump continua a fare quello che... Ma lui, ragazzi, il presidente è immune. Dall'altra parte, per c'ha l'immunità. Ragazzi, per farvi capire, ecco, a che livello, quanto sta immunità. Oltre Trump nelle sue esternazioni, nei suoi colpi di genio. Mentre l'altra sera, ai noi, bruciava la cattedrale di Notre Dame, i vigili del fuoco cercavano in tutti i modi di spegnerla con le lance... insomma dalle rampe in alto, eccetera, dalla barde spaziale. Esatto, arriva Trump e dice: ma perché non usano i Canadair? È giusto, c'è ragione. Beh, sì, in certo. Ha ragione, perché ma poi perché i Canadair e non gli USAIR, per esempio? No, ma io mi domando che bello effetto su una struttura già precaria tirare 5-6 mila litri d'acqua da magari da 100 metri d'altezza. Che schifo, proprio geniale, cioè. Ma vabbè, almeno i pompieri si lavano e si rinfrescano. Esatto. Ma sapete che in quel video che vi ho detto prima come cominciava? No. Praticamente cominciava con l'immagine di Barack, quello che vi dicevo prima, che è stato praticamente ritirato perché ha, diciamo, involontariamente Kidman, no, che... quello in cui Trump usava la colonna sonora di Dark Knight. È iniziato con l'immagine di Barack Obama, Hillary Clinton e le dichiarazioni: prima ti ignorano, poi ridono di te ed infine ti chiamano razzista. Cioè, praticamente questo continua a fare propaganda becera anche da presidente, insomma. Soprattutto, cioè, chi lo e fa sapete anche... chi lo sta prendendo esempio? Non è che lo fa soltanto lui. Comunque c'è Pier G che ci dice: se abbiamo visto la serie Black Summer, io giustamente gli ho detto: magari è quello sui zombas. No, basta. Ha detto: sì, basta, il basta. Tema sono gli zombie, ma è fatta molto bene. Io penso che la guarderò comunque. Qual è la scusa? Io sono un fan dei zombie. Black Summer, quello che abbiamo visto. Black Summer, sì, ok. Quello abbiamo visto il trailer. Ragazzi, ci dice Lobby Frontali invece che ci informa che appena sbarcato in landa terronica e che ha detto ad un amico che sarebbe arrivato un'ora fa ed è in ritardo, cioè l'amico doveva andarlo a prendere, malgrado lui abbia usato la tecnica del ti dico che arrivo un'ora prima della realtà così sei puntuale, questo è riuscito a essere in ritardo comunque. Si chiama Domenico questa persona, per caso, perché mi ricordo un mio caro amico, facciamo la stessa cosa anche noi, non funzionava puntualmente. Secondo me si chiama uno del sud, si chiama. Questo qui, quest'altro tizio è praticamente usa la tecnica del mi ha detto che veniva un'ora fa, esatto. Vabbè, quindi... ormai... No. Che problema? Ci sono problemi. È un po' come Massimo, che è sempre in ritardo, ma perché non è colpa sua. Non è colpa sua. Perché quando si devono ritrovare con gli amici dicono: allora stasera ci vediamo tutti alle 8, Massimo alle 9. Sentite, dice che vabbè, giustamente poi Pierci ci fa sapere che questa cosa che oramai è diventata uno spottone pubblicitario, che per la ricostruzione di Notre Dame, che non abbiamo detto, ma Notre Dame, insomma, abbiamo detto appunto, ha preso fuoco. Ha preso fuoco malamente, perché insomma è una cosa incalcolabile. Oh, raga, quelli sono, erano quasi 1000 anni che stavano a far secca quei legni, cioè c'è venuto proprio bene il fuoco. Infatti, ci potevano fare la braciolata. Ci mancava infatti la carne buona. E che per la ricostruzione useranno Assassin's Creed, che secondo me è uno spottone di quelli proprio senza precedenti. Sì. Dicono che potrebbero approfittare di alcuni modelli render della cattedrale di Notre Dame per capire come ristrutturarla. Staremo a vedere. Il bello che sarà che quando, no, il bello è che quando sarà che praticamente tu vorrai visitare il boh, scannerizzata al laser Notre Dame, che laser ci vuole per scannerizzare tutta la nostra Notre Dame. Comunque dicevo che quando tu vorrai entrare in questa cazzo di chiesa, quando sarà stata ristrutturata grazie proprio alla, allora falla tu che sei capace, falla tu che vabbè, lasciamo stare che te lamenti, cioè, no, non lo so, dicevo che quando praticamente riusciranno a ricostruire questa cazzo di chiesa, quando sarà stata fatta grazie ai modelli di Ubisoft, permetteranno di entrare dentro la chiesa passando attraverso i muri, esatto. I glitch. Oppure quando sarai sulla passerella cadrai di sotto, ma non di sotto nel fuorimondo, cioè, ragazzi. Io mi immagino i turisti che dalla Puglia fanno il salto della fede già, ma semplicemente perché mettono il piede dove non devono, Federica, okay. Prendimi. Comunque sì, gliela do io la possibilità Black Summer, tranquillo. Finisco da vedere The Orville e poi volevo dire che invece oggi leggevo una notizia e mi ha fatto impressione, perché buttata lì al telegiornale di due ragazzi che sono stati diciamo giudicati colpevoli di aver appiccato un incendio non di tipo doloso ma di tipo colposo, doloroso, praticamente a Capodanno dell'anno scorso, perché nella baita del nonno, che era in un bosco, hanno provato ad accendere la brace per fare la grigliata, hanno incendiato tutto, hanno distrutto non so quanti ettari di bosco. E la cosa bella è che praticamente li hanno condannati a pagare una cosa come 27 milioni di euro di danni solo per, diciamo, solo per quello che hanno causato come danni danni ambientali, più tutti i danni che potrebbero chiedergli in sede civile tutti quanti quelli che avevano delle case, dei terreni di proprietà in quelle zone. 34. Vabbè, da un 2-3 mesi pane e acqua ti riporto tutto. Cioè io immagino, ma come, cioè tu... Aspetta, io sto a fare due calcoli, ma secondo me sono cazzi loro. Col quinto, cioè, così, a naso. Ma a meno che questi non abbiano chissà quante proprietà messe da parte, ma erano due ragazzi di 20 anni, la legge dice che più di un quinto dello stipendio non me ne puoi togliere. Avecchio, quinto dello stipendio. Vabbè, però per dire... Il problema è che non potrei... legge di quale paese? Il problema è che non potrei... No, Italia. Ah, sono italiani questi. Il problema è che... Cioè, poi alla fine... come quello ci potrei avere. La cosa bella... la cosa brutta è che siccome stavano nella baita del nonno, il nonno, in quanto proprietario della baita, potrebbe essere chiamato a rispondere in solido dei disastri che hanno fatto i nipoti. Che lui è vecchio, ne frega un cazzo, morite male. Per culo, cioè. Sì, ma morite male. Vabbè, dai, comunque la responsabilità oggettiva è dei genitori, se sono minorenni. No, ventenni, pure stupidi proprio, cioè, stupidi con orgoglio. Sempre colpa dei genitori, comunque. Vabbè. I genitori perché l'hanno messi al mondo. Ma lì dobbiamo fare un appello alle mamme. Mamme? Anzi, alle future mamme, alle mamme. Mamme, ecco, tipo che ne so, a Stefano. Più sesso anale. No, dai. Eh no, nel senso che per evitare sta gente... Io chiamo in causa la gente e tu dici... La gente comunque deve essere forgiata, istruita. Esatto. Istruiamo. Che bella puttana. Vabbè, a proposito di essere istruiti, Gusella, mi fai fare... Puoi indossare un attimo quel gilet, quel giubbottino lì che dobbiamo fare una prova? Sì. Facciamo come in America. Bravo, mettilo bene, stringilo bene. Ci sei? Allora io sparo, eh. Sì, pronto. Boom! Dai. Cazzo! Mazza che effetti speciali. Vero, sì. No, perché dovete sapere che invece in Arkansas è successo davvero. Grazie al cazzo. Io avrei detto più dalle parti, sai, di quegli stati proprio bifolchi del sud. Invece è successo in Arkansas. Beh, che invece... Che sì, in effetti, dove il 50enne Charles Eugene Ferris e il 36enne Christopher Hicks sono stati arrestati perché si sono sparati a vicenda con l'obiettivo di testare un giubbotto antiproiettile dopo che ovviamente avevano bevuto qualche bicchierino. L'indumento ha funzionato. Beh, sì. avrebbero denunciato la casa. Però stranamente Ferris si è recato in ospedale con dei dolori, lamentando dei dolori al petto. Il vice sceriffo ha preso, se l'è bevuto praticamente. Io devo dire che certi colpi di genio, Avrebbero potuto inventarsi qualsiasi cosa. Sono stato attaccato da un alce, sono stato investito da un tronco, cioè, qualsiasi tu pensa, uno che cammina per strada e arriva addosso una patata sparata con un bazooka. Tu pensa, mi arriva addosso una patata sparata con un bazooka, non lo so, però una aggiornamenti allora FC Porto Liverpool 0-1, vince il Liverpool. Attenzione, Simone Pizzul ci informa che mentre che Manchester City e Tottenham stanno ancora sul 3-2, cioè questi sono sparati tutto all'inizio, e comunque in finale sicuramente c'era un inglese, questo è sicuro, ma c'è il rischio che vanno due inglesi in finale. C'è la Scozia? No, Scozia no, dove è la Scozia? Manchester. Vabbè, vediamo ragazzi, ancora non è detto. Tottenham e Liverpool, ragazzi, la Juve a Cristiano Ronaldo potrebbe arrivare in finale. No, finita. Uscito. Vabbè, comunque. Vabbè, ma c'è il VAR, no? C'è il VAR. C'è il VAR, sì. Ripescaggio. Anche il VAR. No, tra l'altro, ragazzi, scusate, io rido perché poi leggo queste notizie. Adesso inizia quel periodo dell'anno in cui, visto che i verdetti sono tutti fatti, fondamentalmente non c'è più modo di vendere una copia del giornale. Allora, nelle grandi città, dove insomma si cerca sempre di trovare il gancio, il pretesto, si cominciano a inventare di tutto pur di vendere qualche copia. Oggi leggevo questa notizia in cui dicevano che praticamente, secondo i giornalisti, l'obiettivo della Roma sarebbe chiaro: Totti chiama Conte. Ora io voglio dire. E poi vabbè, dall'Inghilterra Conte, dicono attenzione perché c'è la Juve su Conte. Conte quello. Conte, no, Conte. No, secondo me è il presidente Conte. del Consiglio. Ah, allora, Conte, lui, quello chiama. Perché voglio dire? Ci penso io perché mi vengo per io. No, un po' più così. Mi hanno detto che la manovra correttiva. Non so parlare, romano. No, perché sarà un anno bellissimo. Sarà un anno bellissimo. Ricordatevi questa frase. Un anno bellissimo de merda, direi. Tra l'altro, ragazzi, i Toronto Raptors contro gli Orlando Magic hanno vinto 111-82, vabbè, figa che roba. Però fammi dire una cosa: oggi Tria l'ha buttata lì. Ha detto, me sa che l'IVA aumenta. Ragazzi, Conte l'ha detto pochi giorni fa. Quando ha detto che sarebbe stato tanto bellissimo, era solo una battuta. Ma se non ci creda manco lui, ce l'ha buttato. No, ce l'ha buttata qua. La manovra collettiva di Giuseppe Conte, bellissimo. Non c'è stata nessuna cattiva previsione da parte del governo. No, è cambiata la congiuntura. Certo, in due mesi le congiunzioni astrali, perché Saturno è andato in trigono con Urano, non l'avevano previsto. Certo, è vero. Sono 8-9 mesi che stanno lì, che stavano avversando le recessioni. Ma in queste due settimane è stato un casino. Ma forse perché, eppure, io sono sicuro che alla fine della fiera riusciranno a dire che è colpa del PD. Ci sempre riusciranno, sempre colpa del PD, ricordo. Anzi, oggi ho visto uno che ha pubblicato. Vabbè, ma lasciamo perdere, chiaramente. Comunque, secondo me è colpa dei Denver Nuggets. Non so. Così. Chicken McNuggets che giocavano contro i Sant'Antonio Spurs e hanno vinto 114-100. Sant'Antonio. Così, vabbè, no, diamo risultati sportivi. Siamo diventati tipo l'angolo dello sport, no? No, ma sembriamo più la bisca. Stiamo dando i risultati per il picchetto, no? Perché chi avete scommesso? No, perché a tennis c'è, cioè, il Rolex Monte Carlo Masters. Non puoi dire una marca, non hanno pagato lo sponsor. Non puoi dire Monte Carlo. Devi dire orologio che non va preciso, Masters. Jamin Murray contro Bruno Soares. Chi è contro chi, non capisco, però vabbè. Ah no, queste sono le coppie, ok. Vabbè, andiamo tutti avanti. Contro tutti. Andiamo avanti, ragazzi, che ci sono notizie veramente importanti. E niente. Salute. Noi non siamo ancora riusciti ad andare a inaugurare la sede dei 5 Stelle qui a Monterotondo. No. Però quando... Ma aspetta, come... No, ho paura di chiedertelo, ma come si inaugura una sede? Beh, bisogna bagnarla. Maledetti! Ragazzi, ma l'avete vista? Ora, questa rimane veramente in questa stanza, perché non è che abbiamo supporti, ok? Ma voi qui nello studio l'avete vista la faccia del candidato 5 Stelle come sindaco di Monterotondo per maggio? No. Ecco, andate a vedere. Prendi, vai su YouTube e cerca. Vai, fammela vedere. Su porn, da qualche parte, vai. No, comunque, in ogni caso è stato un... Vai su, è stato un bell'anno. Dove? Apina.biz, andiamo a vedere, vediamo cosa io succede. No, lo sta facendo, io non lo farei se fossi in te. che è uscito fuori. L'hanno chiuso, strano. TC, they contain materials may not... Non legge la descrizione. Sweet you speciali, you are under 18 years. Beh, bravo, vedo che ti è servito molto, insomma. Ma non era un sito normale. Crescere. Ah no, guarda, puoi dire sì, io ho più di 18 anni oppure no. No, non ce li ho. No. Verrai bannato per sempre da tutti i siti under. Ma il bello è che se scrivi no, ti arriva un messaggio con scritto you cannot leave. You non te ne puoi andare, pass. Non te ne puoi andare. No. Ma che cos'è? Scusate. Ma schiaccia, sì, ma non schiaccio niente, sul ma mio. Non è niente di che. Sul mio sito, non funziona il mio computer. Non andate tutti su apina.biz. Vabbè, ragazzi, invece questo per i miei sodali di studio, vi mostro il viso, l'eloquente intelligenza di Alberto Pagliuca, candidato sindaco, candidato alla porta di Monterotondo. Manda il link già, dal Movimento 5 Stelle. Bello, mi piace. Bello. Personaggio proprio, come dire, ispira proprio, per carità, sembra un buonaccione, però. Ispira voti proprio. Ma... ne ispira così tanti che proprio nei sondaggi eccetera non lo considerano minimamente. E dire che nella precedente tornata elettorale la candidata 5 Stelle era arrivata seconda a poche lunghezze dal vincitore. Invece, poi la gente si è resa conto, ma sai. Ma succede sempre così. Poi a un certo punto ti svegli sempre tutto sudato, anche quando pensi di fare un bel sogno. Comunque, vabbè, pazienza. Ragazzi, comunque sono le 23, abbiamo fatto la nostra puntata. Io volevo ringraziare tutti. Io volevo far notare che sul famoso sito allgamesitalia.net esiste ancora quel sito? Questa settimana, anzi no, l'altra scorsa settimana, precisamente il 4/4/2019, hanno pubblicato una puntata di Videoludica 402, Black Log, una vita non basta. Stanno sul pezzo. La puntata tipo dell'anno e mezzo fa, vabbè. Grazie Allgame. No, del resto una vita non basta. State. Giusto. State, c'ero già io. Siamo in guerra, vogliamo più 25 anni. Vabbè. Vogliamo parlare di questo. Vi rendete conto, ragazzi, di come cambiano le sfumature? Cusella dice: la scorsa estate c'ero già io. La prossima volta diremo: c'era ancora Cusella. Vi ricordate Porco quanto zio, tempo c'era è ancora passato? Cusella. Cusella, se te te tolgono Instagram, no? Che cosa fai? Boh. Quello che fa niente. Adesso. Niente. Vado su Opina.biz. Fa battute strane. No, c'è una pagina bellissima che seguo su Instagram. Mi fa no, Instagram non me lo dovete toccare. C'ho tutti i miei meme lì sopra. I meme, per carità. Perché tu c'hai Instagram? Certo. Non lo sapevo. Dici il tuo Instagram, così ti veniamo a cercare. Instamica. Bello, mamma mia. Bello. Stasera poi sei in forma. Perché perché è allergico al cazzo, questa minchia? Sì. Mamma. Jesse Taylor, influencer di 21 anni, gli hanno cassato l'account. Sono cose che cambiano. Hanno fatto bene. Pure lei si è mangiata un panino con l'hamburger non dicendo di essere vegana. Non si sa, no. Oppure come quella di Twitch, la Twitcher bianca che per fare la cosplay di un personaggio nero si è tinta la faccia di nera e l'hanno bannata. Ma perché? Per odio razziale. Per odio razziale, cosa del genere. Ma scusa, ma sta facendo un cosplay? Mi dispiace, ma lei se ne va a fanculo. Comunque gli hanno bloccato. Devi scegliere solo cosplay. Temporaneamente, poi tra l'altro, gli hanno bloccato l'Instagram a questa ragazza. E lei è praticamente andata in una crisi di isteria, pianto e rabbia, e su YouTube praticamente ha detto: non mi togliete Instagram perché non ho nient'altro, altrimenti dovrò tornare a fare la prostituta o cose del genere. Bene. Comunque ha fatto una vitaccia ed è brutta questa cosa, cioè. Aveva paura di tornare a fare un lavoro normale. Mi vorrei fermare un attimo sul concetto che, per carità, senza nulla voler, come dire, starle a fare i conti in tasca, ma lei con Instagram riusciva a guadagnare quanto guadagnava probabilmente sì. No, magari a quanto. Forse non guadagnava molto da prossimo. Non se la batteva nessuno prima. Può essere, ma non andiamo a guardare sul lato di quanto guadagnava. Però gli permetteva di guadagnare senza fare un cazzo. Certo. E senza neanche farsi un cazzo. Esatto. Questa è la cosa molto più importante. L'hanno chiuso e detto non voglio tornare a lavorare. Io non so fare un cazzo. Infatti. Io non so farmi un cazzo, era lì il problema. Il problema è quello. Comunque, il problema suo è che questa mamma mia, che rappresenta battute, una generazione di fenomeni spiantati, diciamo. Scusate, che non sanno fare veramente una ragazzi, città. Io è adesso brutto, vi brutto. Voglio proporre una cosa. Proponi. Stefano ha detto che ci ascolta domani. È giustificato. Rizzard prima mi ha detto: vi ascolto in differita. Va bene. Robby Frontali allora. Dice: vi abbandono, a presto. Facciamo una cosa, torniamo anche noi domani. Sì, pure noi ci ascoltiamo tutti domani, anche noi. Facciamogli gli scherzo. Però facciamo così, freghiamo. Noi ce ne andiamo, però lasciamo la diretta accesa fino alle 23. Così a sbavo. Così domani. Così, cioè, vabbè, no, ma ci sarà un... Esatto. Questa cosa parlavamo di alla fine, però. Però è troppo tardi. Me l'abbiamo detto. Ah, vabbè, ma... Allora, fate finta di non aver sentito. Giusto, giusto. Cosa? Boh. Non so, ti sta andando a portare questo programma. No. No. Però avrà presso un canale Instagram. Instagram, esatto, stavo pensando alla stessa cosa piuttosto. A budane. Io certe cose non le faccio, piuttosto avrò un canale Instagram. Ma bravo, scarica gli aggiornamenti mentre facciamo la diretta. Ma io ho la fibra 50.000 cazzi qua. Beh, che... Poi installali pure, però. Li stai installando, li stai installando. Ah, bene, siamo fottuti. Allora, così, no, però... allora, ragazzi, se non ci sentite più è perché Windows si è riavviato. Perché no? Perché ha aggiornato. No, Windows. Ma è l'Epic Store. Su, ah, cioè, vabbè, allora ditelo. Tu andare a retta a Gusella, che era un peso. Gusella si è deciso stronzate oggi. Invece altri sta due. Qui a che sta a fare il troll. Silenzio, che fa. Vabbè, allora direi di fare. Chiudiamo perché ci siamo già rotti il cazzo. Chiudiamo. No, no, è presto. Adesso mettiamo un brano, ci riorganizziamo un attimo. C'è sonno, ma tu c'hai sempre sonno. Mi sono svegliato solo 10 ore fa. Infatti. No, ah, comunque volta... volevo dire ai romani e ai turisti che si è rotta la scala mobile pure della metro dei Termini. Una alla volta. Bravo, bravo. Si stanno proprio, stanno finendo. Certo, una è rotta, l'altra no. Infatti. Vabbè, io adesso metto un brano e fra un po' ritorniamo. Ciao. Mettiamo i Deep Purple, la vado, sì. Una cosa a caso, tanto per mettere qualche cosa. Ciao, a fra poco. Ciao. Eccoci qua in diretta su Runtime Radio OGM, ottimisti genericamente mortificati, con questo rock che ci sfila da sotto il tappeto, ci strappa momenti di vita importante, però noi insomma abbiamo delle cose da dire, perché il nostro Walter Sbano, inviato da noi, quindi è proprio, era in veste ufficiale, giusto? Assolutamente. È andato lì, noi li abbiamo anche paccato per fare questa l'abbiamo cosa. Paccato, mi avete paccato, sì. Ha incontrato un personaggio pubblico di rilevante importanza per la cultura interplanetaria. Ebbene sì, perché io sabato pomeriggio ero nella ridente località, nella mena località chiamata Anguillara Sabazia, sul lago di Anguillara. E che, dove sapete, dove tutti sanno, c'è un famosissimo coworking chiamato Sablab, che quindi salutiamo gli amici di Sablab. Mai saputo che ci potesse essere. Manco io fino a sabato, però vabbè. E perché ci sono Sablab, stato? Perché ci sei stato sabato. Esatto, bravo. Ci ha salutato Lobby, addio Lobby. E ciao, Lobby, perché addio. Sono stato lì? Perché ho partecipato a un incontro molto molto, come dire, molto... molto a carattere, diciamo, molto così, informale con Zero Calcare. Oh, ah, tu, cioè, eri tu e Zero Calcare. Quasi, no, eravamo, devo dire, penso una trentina abbondante di persone. E lui si è prodigato con noi in grandissima serena amicizia, a chiacchierare veramente del più del meno per due ore, a farci i disegnetti sui libri o su qualunque altro supporto che noi gli avessimo portato. Insomma, siamo stati lì dalle 3 più o meno fino alle 7. Poi ho dovuto scappare perché avevo un altro evento altrove. Poi Porellino, una storia tristissima, perché mentre arrivava sul posto ha bucato. E scusa, posso un po' abbassare un po'. Ah, sì, scusa, stavo si fa i cazzi suoi. E quindi cosa ha fatto? Siccome è una persona di un certo senso civico, una volta che ha bucato, non soltanto si è accostato sulla corsia per non intracciare il traffico, anche è salito su un marciapiede. E ha bestemmiato. Se non che cosa è successo? Quando ho provato a cambiare la gomma, il crick gli si è rotto. Nella Madonna. E essendosi rotto, ha avuto anche il problema che poi non è riuscito a infilare la gomma, perché ovviamente lo spessore del marciapiede gli impediva di inserire la gomma nella sede. Quindi vabbè, i ragazzi della coworking sono andati a dargli una mano, insomma, poi la cosa si è risolta per il meglio. Ma l'incontro su cosa verteva? Cioè, qual era lo scopo dell'incontro? Era semplicemente un incontro con i fan per fare quattro chiacchiere. Lui ha risposto a un po' di domande che gli abbiamo fatto noi, non neanche preparate. E poi potevi registrarlo. Ho registrato un momento in cui lui disegnava sulla lavagna un alce. Voi direte perché un alce? Perché era il simbolo del lab. E quindi ha chiesto gli anfitrioni, giustamente i proprietari del coworking, gli hanno chiesto di disegnare un alce. E lui, poverino, si è prodigato utilizzando peraltro il mio cellulare come supporto, perché non sapeva come era fatta un alce. Allora gliene abbiamo trovata una su YouTube, su Google. Lui con cellulare alla mano. Non sai come è fatta un alce. Ma se tu adesso mi dicessi com'è fatta un alce, io non è c'ha che c'ha quattro gambe, c'ha orecchie, corna, c'ha quattro cornina muschiate, due di qua e due di là. E quindi, poi pumbia come un'anguilla. No, ma divertente, devo dire, è stato un pomeriggio piacevolissimo, perché ti accorgi di come certi personaggi siano poi alla fine evadano completamente il concetto di personaggio pubblico. Lui è un ragazzetto di una normalità sconcertante. Il giusto sociopatico e sociofobico, come siamo noi di queste generazioni. Noi anche tu, tranquillo. Noi come tutti noi. Sociolabile. Veniamo da questo tipo, secondo me, da questo tipo Sociolab. Di printing. E facciamo anche noi il coworking Sociolab, dove ci sono solo i sociopatici. Sociolabile. Tipo chiudere dentro. Sociolab. No, devo dire, è stato un pomeriggio veramente veramente piacevole, che poi peraltro si è concluso. Quindi ha fatto una buona impressione. Sì, tra l'altro mi ha fatto veramente un po' sorridere questo personaggio, che un piccolo aspetto che vi faccio, che vi racconto per farvi inquadrare bene il personaggio. Ha risposto senza sottrarsi a nessuna delle domande che gli abbiamo fatto, nessuna, per carità, nessuna, diciamo così, inopportuna. Però a qualunque risposta lui desse, a qualunque domanda desse una risposta, lui non alzava mai lo sguardo e non ti guardava mai negli occhi. Però un personaggio di una timidezza disarmante. Forse ti disprezzava. No, posso proprio dirti che è proprio il tipo di personaggio veramente introverso, malgrado il suo ruolo pubblico l'abbia dovuto portare a confrontarsi con il prossimo, cosa che potendo eviterebbe probabilmente di fare ben volentieri. E vabbè, devo dire che ecco, ci ha fatto veramente divertire, ci ha raccontato alcune cose, ci ha confermato cose che bene o male chi ne è fan già sapeva. Su Telegram. No, attenzione, devo interromperti, scusa, per una notizia importante, perché a Montefalco terremoto 2.2, attenzione. C'è lui a terremoti bot su Telegram. Ce l'ho anche io, te l'ho suggerito io, sì. Però io ho le notifiche spente, a differenza di Pizzi. No, potremmo fare però la radio di servizio, invece di fare il traffico in temporale, invece di fare isoradio, facciamo terre radio, sì, esatto. Terre radio, fallisce. Sperando di poter dire delle cose apocalittiche in diretta, perché poi sai. No, una volta che lo fai, la speranza è quella. Sperando anche no, dai. Si scherza, assolutamente. Ecco, per esempio, ci sono delle interferenze. Sì, ma tanto non le sentono. No, dicevo, poi la cosa bella è che la serata, Anguillarese poi è culminata nel suo apice, perché dopo l'incontro con Zero Calcare, la sera con Valentina e con un nostro amico di là, che ci aveva dato il gancio per andare a questo evento, siamo andati a mangiarci un ottimo abbacchio allo Scottadito. Ecco, quindi devo dire, ho fatto Pasqua in anticipo. Ah, ho capito. Cioè, ti hanno dato un gancio, quindi insomma. Sì, esatto. Quella, hanno dato un gancio, non mi sono più ripreso. T'hanno fatto male? Molto, è stato. T'hanno fatto male, vabbè. E niente, a questo punto c'è un momento, insomma, che va importante. È introspettivo. Un momento importante, un momento catartico. E purtroppo noi, sempre questa, che ci stanno tante altre. Perché dovremmo fare un asset, quindi... Noi parliamo solo di cose tristi perché abbiamo solo quest'asset. Esatto. Che siamo mortificati. Esatto, se avete qualcuno vuole fare gli assets per i coccodrilli, noi siamo contenti perché c'è un coccodrillo da fare. Io non so chi sia, assolutamente. In realtà, in realtà è successo circa un mese fa, però è stato detto oggi, ieri, in realtà. Quando proprio hanno sì, è proprio morto. È venuto, è proprio morto. Alla veneranda età di 82 anni è morto Monkey Punch, il disegnatore giapponese, autore di Lupin. C'è pure sta, insomma. Beh, sì, non diciamo. L'avevamo già detto. No. Siamo sicuri? Sì, l'abbiamo detto oggi in chat, io ho detto "Ma chi è questo?" Mi dispiace. Detto, no. Vabbè, ma che sti cazzi. C'erano anche altri argomenti, mi pare, che avevamo trovato, ci eravamo accordati. Più però. Importanti. Sì, morte e devastazione, giustamente. Non mi ricordo, insomma. Vabbè, vogliamo darci, come dire, alla critica sociale di costume, vogliamo dire la nostra sulla cattedrale di Notre Dame che brucia, che ha bruciato? Ma... Per me hanno stato quelli dell'ISIS. Sì, o il PD è stato anche. Allora, probabilmente un operaio del PD avrà lasciato, che ne so, un elettrosaldatore acceso, qualcosa del genere, perché... Qualunque responsabilità di matrice dolosa, lo diciamo subito, è stata esclusa categoricamente. È stato un evento fortuito, un evento... Secondo me non è stato secondo me un operaio di chiara origine sinistroide ha lasciato islamica, chiaramente. Lasciato un immigrato islamico acceso sul ponteggio, casando quanto questo. Sì, esatto. Non l'ha spento in tempo. Beh, allora diciamo che il danno è abbastanza incalcolabile, penso, a livello proprio il patrimonio dell'umanità. Dall'altra parte dici, cioè, ti domandi quante risate si sarebbero fatte i francesi se fosse successa una cosa a San Pietro, cioè una cosa già a San Pietro. E quindi noi, giustamente, siamo anche persone, insomma, come posso dire... San Pietro non lo so, però il Duomo di Milano sì. Il Duomo di Milano, San Pietro no, perché sai, dove c'è il Papa, persino Trump si regola. Vabbè, comunque, quante risate si sarebbero fatti, insomma, i francesi? Ah, les italien, incapacen, coglionen, e allora andatevene a fanculo. Sì, no, diciamo che da un punto di vista, allora, posto che abbiamo subito accertato che non ci fossero stati feriti, insomma, che la tragedia è di tipo culturale, ma non è di tipo, diciamo, umano. Allora, diciamo che ci siamo permessi un attimino di scherzarci con un pochino di leggerezza. Perché è vero che a livello di patrimonio storico e culturale si perdono tante cose, perché è una cattedrale antica, sì, però è vero anche che, insomma, fortunatamente di queste cose non è che ne siamo proprio all'asciutto, perciò... Ma la rifanno, la ricostruiscono, dai. Tra l'altro, è già una cattedrale che è stata già rivista diverse volte nel corso di mille anni, e anche questo incendio farà parte della storia, farà altri 500 anni... Quando riandrà a fuoco un'altra volta, perché vabbè, ogni tanto può succedere. Ma certo che succede. Anche certo. In Italia abbiamo tanti monumenti che sono stati costruiti, ricostruiti, perché andavano mezzo a fuoco. Il Teatro La Fenice, il Petruzzelli. Esatto. Quando abbiamo le chiese d'Assisi. X che anni, provate, se quindi... saremo sopravvissuti a noi stessi, avremo ancora un Louvre dove guardare, questo è stato questo storico monumento, addirittura nel 2019 è andato a fuoco, ci abbiamo detto. Ragazzi, questa è parte della storia. Io non so quanto costerà ricostruirla e se verrà ricostruita è fedele all'originale o se sceglieranno soluzioni avveniristiche. Io so che hanno chiamato i migliori architetti per la ricostruzione, però quello che posso dire è che, al di là del fatto che attenzione, lo puoi dire? Sì, lo posso attenzione, dire. Attenzione, eh? Imminenti personalità francesi, come per esempio Pinot della Pinot, che è imminente, imminano contro di noi. Sì, esatto. Praticamente hanno già fatto delle donazioni, degli monumenti, e hanno, pare si siano raccolte chi dice oltre 600 milioni, chi dice oltre 900, quindi diciamo che rischiamo di essere quasi arrivati ad 1 miliardo di dollari, di euro, di fondi già donati per ricostruire, che per carità è una cosa importante, io ci posso stare, però ci sono tragedie umane, ci sono occasioni in cui migliaia di vite umane si bruciano, ci sono casi in cui migliaia di persone restano senza casa per terremoti, tragedie naturali, meno naturali, non arriva il becco di un quattrino, per una chiesa arrivano i miliardi di euro. Questa cosa a me da persona non particolarmente attratta dall'ambito, da quella che è la questione religiosa, un po' mi fa incazzare, ecco. Beh, diciamo che secondo me in questo momento è anche molto pubblicitaria sta cosa, anche perché subito stanziati i soldi dai privati, 100 milioni. Ma dove l'ha messi questi soldi? Però che magari non è stato manco aperto un conto. Però ti invito a riflettere su una cosa, perché questa cosa a me è una di quelle cose che veramente fa sempre tanto incazzare. In Italia mediamente ogni 5-6 anni c'è un terremoto che lascia senza casa migliaia di persone. No, ma io sono d'accordo. Cos'è che costruiscono sempre puntualmente? Le chiese, cos'è che non costruiscono mai? Le case sono importanti. Pure quando tu giocavi a Populous, cos'è che costruivi prima, quasi prima di tutto? Costruivi il tempio. Il bordello. No, il bordello. No. Prima le case per i contadini, poi lo stadio per i giochi olimpici. Certo. Poi prendeva fuoco tutto. No, con te prendeva fuoco tutto. Prendeva fuoco tutto perché non c'avevi la chiesa. Se ci avessi avuto la chiesa, non sarebbe andato a fuoco. Esatto. E comunque giustamente Davide Gatti si unisce a noi nella disamina e dice: una scia chimica che è venuta a contatto con un peto di uno del PD è la spiegazione per l'innesco dell'incendio. Un fulmine che ha colpito la renza. Interessante, molto interessante. Vabbè, quindi... Comunque io non ho ancora visto bene quello ciò che è rimasto della chiesa, però diciamo secondo me è un bel po' rimasto, dai. Ma adesso ma guarda che solo la parte superiore, ma sopra ci fanno, secondo me conviene farci un bel multisala. A quel punto, secondo me si fa un bel parcheggio sopra, un bel multisala, proietti film, oppure una terrazza per fare gli aperitivi, le mouche bouche. Fai un bel roof garden con sprizzettino, con l'aperi Cristo. Fai proprio pandandi. Comunque giustamente ci fa ricordare, ma questo l'avevamo un po' detto anche durante la puntata, che comunque Ubisoft oggi regala Assassin's Creed Unity proprio oggi, solo oggi? Sì. Ma sai che è finito oggi, quando tutto torni a casa è già finito. Cioè che hai detto, speriamo che danno fuoco anche ad Atene, così magari escono Odyssey. Esatto. Ecco, beh sì, insomma, può succedere. Oppure, che ne so, le piramidi d'Egitto. Ma Origins è già vecchio. Ma le piramidi è difficile che vanno a fuoco, capito? Lo dici te. Ma c'è tanto sole, è molto asciutto. Io ho visto prendere fuoco cose che voi umani... Anche me stesso per autocombustione spontanea vicino al sagrato. Infatti pure io, se vado troppo vicino, ecco, potrebbe essere stato questo. Io quando sono stato a Parigi, mi pare fosse il 2002, non mi sono potuto avvicinare più di tanto a Notre Dame, perché sennò prendevo fuoco. Capisco. No, invece quando ci sono andato, però ci abbiamo lasciato, all'epoca c'erano le impalcature per un'altra, ci abbiamo lasciato a dormire un amico, non posso vedere. Quando sono andato io, ci abbiamo lasciato un amico a dormire in mezzo ai barboni. L'abbiamo ritrovato su una panca di... No, era vivo. Abbiamo trovato su una panca di marmo in posizione, possiamo dire, non lo so, cadaverica. Quindi con le mani giunte in petto a dormire. Supino, perché si era inalberato. Supino? Esatto. Vabbè. Praticamente, allora, Gusella se le sta sparando tutte oggi, perché esatto. Ovviamente dopo vuole che gli venga fatto il cappottone, come si dice. Ma che facciamo? Quando sarà a Milano facciamo l'angolino di Gusella, lo facciamo collegare, gli facciamo sparare la sua cazzata? Come facciamo? Ci facciamo mandare il contributo. Non voglio più sentire, guarda. Oppure non so, lo mandiamo in MDB Samma con... Quello sicuro, infatti. Perché voglio dire, ormai è una delle punte di diamante della radio, non può non trasmettere. Esatto. Non può. Come possiamo andare a quell'altro argomento lì, non quell'argomento lì, quell'altro argomento lì. Vai. Così almeno... Serpedrone. Quello lì. Cioè, quello che... leggermente così. Quello un po' più di là, esatto. Perché di là c'è una... Infatti quell'altro, mica l'argomento, mica noi, scusa. Questa settimana è uscito finalmente il trailer che noi tutti aspettavamo con ansia. Ma anche no. Con ansia di episodio, con ansia con di episodio 9, cioè la nuova fatica con la F maiuscola di J.J. Abrams, che Dio lo abbia in gloria al più presto. E, con tanto di coccodrillo organizzato da noi. Ma guarda, qui ormai il problema non è manco più ormai, cioè, comunque è sempre partito da lui, secondo me è sempre Disney il problema. Disney. Comunque in ogni caso è uscito col nuovo trailer con un titolo tra l'altro inaspettato. Io esatto. Non me lo sono aspettato. Com'è il titolo? Skywalker Rise of Skywalker, pardon. Sei cioè, sicuro? Sì, Rise of Skywalker, cioè praticamente l'alba. Rise, cioè è il sorgere, no? Qualcosa quindi il che sorgere. Sorge il risorgimento degli Skywalker. Toh, buttiamo via là, se volessimo essere italioti. E praticamente c'è questo trailer. The Rise of Skywalker. Bravo. Dove ci fa capire che praticamente gli Skywalker ritornano, però allora, facendo il punto, allora quindi anche quindi Luke Skywalker teoricamente è morto, teoricamente, perché magari invece è solo teletrasportato, non dipende da come hanno deciso di affrontare la cosa. Vabbè, pare che lui ci sia nel film, quindi esatto, sotto che forma non si sa. Leia è ancora viva nei nostri cuori, ma non nella realtà, perché è morta un po' di tempo fa. Ma la tecnologia l'aiuterà? No, perché non hanno detto da subito che non avrebbero utilizzato tecnologia. Ragazzi, l'hanno detto che Carrie Fisher non ci sarebbe stata nel film in digitale, l'hanno detto proprio subito. Sì, vabbè. E comunque magari perché ha già fatto tutto quello che doveva fare probabilmente. Su IMDb c'è scritto che lei comparirà ma come archive footage, quindi come materiale repertorio, probabilmente con dei sfrutteranno del girato per fare dei flashback, non più e poi quello. Ci mettono sopra le frasi appiccicate e poi magari io volevo dirti ciao. Poi la fanno decollare. Vi ricordate la puntata dei Simpson dove c'erano Gattek e Fichetto e mettono il terzo personaggio, il cane, che praticamente era doppiato da Homer, che poi a un certo punto lo vogliono far fuori e lui non voleva. Allora con l'inganno gli fanno fare tutto quanto il pezzo in cui lui dà addio a Grattacchecca e Fighetta e lo tagliano, praticamente lo rimontano, lui praticamente a un certo punto invece di andare via e sparire decolla come un raggio ed esplode. Farà una cosa del genere, quindi decollerà ed esploderà nel cielo azzurro. Probabile, va bene. Comunque, che cosa ne pensate voi di questo? Anche voi che siete in chat, scatenate l'inferno. Perché, cioè... Tra l'altro, oggi in chat sono così pochi che non posso neanche parlare tra loro. Sono un po' triste per questa cosa. Veramente. Beh, ma siamo anche in prossimità di Pasqua, dove ci sono anche le lunghe ferie o ponti o cose. E quindi, giustamente. Però potete farcelo sapere nella pagina di Ponte Facebook. Ponente, Ponte P, tappeta Perugia, che non ho mai capito perché si dice, però. Comunque, potete farcelo sapere nella pagina apposita di Facebook. Faccio un buco o anche nella nostra mail ogm.runtime, anche nel nostro canale Telegram. Sì, ma tu ti sei dimenticato che non abbiamo quello che volevi dire del trailer di Star Wars, che è una merda. Non è che mi sono dimenticato, ho chiesto a voi che cosa ne pensate. Ah, noi ce l'hai presa. Vabbè, il teaser non dice niente, è girato appositamente, si vede. Non si capisce, sembra quasi una sorta di sessione di allenamento sul ponte locale. Però me la butto lì. Però io ci ho visto, cioè c'è un qualcosa tipo da ninja giapponese, c'è un momento in cui lei si muove con le gambe veloci. C'è lei che fa questo salto improbabile, prende una cosa plastica che in un fotogramma sembra il calciatore dell'album della Panini che fa la sforbiciata. Però quello degli anni 70. Non l'hanno 70. Mai cambiato. No, è sempre lo stesso. Sta lì non è mai caduto. Esatto, sta lì. 50 anni non è mai caduto. Vabbè, papà, che fai tu di lavoro? E faccio questo. Papà, perché non scendi? Stai zitto, non mi fa sconcentrare. Comunque, in ogni caso, girando praticamente la scena, gira che te nessuno si sarebbe mai creso che avrebbe fatto una cosa del genere. Chi? Cioè, Rey, che non avrebbe saltato e avrebbe attaccato il TIE Fighter, che invece di spararle andava a tempesto. Ogni volta ne devi fare una peggio. Ma in generale, che cosa ne pensate? Anche del titolo, che cosa vi fa la risata finale di Palpatine? Perché attenzione, qua c'è sta il ritorno di Palpatine. Palpatino. No, veramente. Palpatina. No. Ragazzi, non so bene che pensare. Nel secondo senso me che... torna allora pure Darth Vader. Io ormai sono potrebbe essere. Ormai mi sono rassegnato definitivamente al concetto che questi film non lo dico, non sono guerre stellari. Non parlano a noi e non sono guerre stellari. Però al di là di questo, io non so se ci avete fatto caso, negli scorsi lunedì su Italia 1 hanno cominciato a rifare dal primo capitolo, quindi da episodio 1, i classici Star Wars. E quindi hanno iniziato dalla trilogia più brutta, che è la seconda in termini cronologici, la prima in termini, certo, di timeline. Certo. Ho visto episodio 1, ho proprio saltato perché non lo sapevo. Poi il lunedì successivo ho visto dei pezzetti di episodio 2 e soprattutto di episodio 3. Ragazzi, ma al di là del fatto che è veramente film de merda, ma anche da un punto di vista tecnico, all'epoca quando li abbiamo visti sembravano veramente lo stato dell'arte degli effetti speciali e tutto. Sono passati meno di 10 anni, no, un po' più di 10 anni, un po' più, poco di più, 15 e anni. Li guardi dicendo, boh, che film del cazzo, ma in tutti i sensi, non solo per la trama. Ma se film, no, a parte ci sono di quei personaggi ridicoli. Cioè, quello che vola, che parla strano, quell'altro del personaggio. Yoda. Dutto. Ma no, che Yoda. No, perché nel terzo, quando fa il combattimento e salta come un grillo. Vabbè, ma quella è quella la parte sta, più figa. Cioè, perché quella era pure figa. Sempre domandato, ma che cazzo fa questo Davide, esatto, che cioè, il cazzo è imbarazzato. Ma pensiamo, no, cioè, ragazzi, il combattimento di suo che salta come la molla è veramente imbarazzante. No, è bello, invece no, ci sta. Oh, ma cazzo, è Jedi quello, cioè, non può essere che non quello. Fallo combatte col pensiero, fagli animare la spada laser. È col pensiero che vola lui, perché sennò mica può. Voli pindari ci fa. Ma dai, ci sta, quello ci sta. Il problema è il personaggio protagonista, là, quello con orecchie lunghe, come si chiama là, Jar Jar. No, Jar Jar nel secondo e nel terzo soprattutto lo hanno relegato molto a macchietta. Perché... Ma quello che te pare, ma faccia schifo già da inizio, cioè, ma era ridicolo. Cosa poi dice? Questi qua c'è una civiltà sottomarina che non sanno manco parlare. Dai, anche Hayden Christensen, che è l'attore che interpretava Anakin, veramente un cane, ragazzi, mono espressivo. Nel frattempo vi avviso che è uscito il trailer finale di X-Men Dark Phoenix. No, Costanza. E sti cazzi! Mamma mia. Costanza, non ce la posso fa. Con la gatta morta che fa Fenice, non ce la posso fa. Beh, merita d'essere uguale sul trono, uguale al trono di spade, perché forse stava girando il trono di spade. Chi sono questi blu? Scusa, chi sono questi blu? A Lazio. Cioè, la Lazio c'è lei, c'è Bestia e c'è poi cosa, come si chiama, la donna ha preso fuoco, attenzione, sarà Mistica. Mistica, sì. Guarda, io sto facendo un preascolto della gente che parla, uno pelato. Ah, che deve essere. Ah, c'è Sansa, vedi, ecco, vedi, bello, Sansa. Bello. Un operato deve essere Xavier Occhi e Croce. Penso pure io. Interpretato sì, da uno nuovo. Ragazzi, uno nuovo. Mac Ivory. Che problemi c'ha sta bionda che ha i lineamenti strani? Cioè, boh, vabbè. Quindi. Che fa Sansa, cioè, in questo film? Che è finito. Ah, Jean Grey. Che è un personaggio. Jean Grey. Che però si evolve in Dark Phoenix. Quest'anno, dice il trailer. Quest'anno, so cazzo. A proposito, vostri. Ragazzi, siccome ho approfittato di una promo di Google Play, ho noleggiato dal mio credito reward per la modica cifra di 99 centesimi Wolverine. Devo ancora vederlo, la cosa immortale. mi scade Wolverine immortale tra due settimane, non sbrigo a vederlo. Logan o Wolverine immortale? L'ultimo, Logan, quello con anche Xavier. Patrick Stewart. Non lo so, beh, Logan hanno detto che è molto figo, tra l'altro, molto bello. Della roba Marvel, mi sa che X-Men Hulk Logan. Ma X-Men è roba Marvel Sony, però, cioè, che adesso... No, era Marvel Fox, 20th Century Fox, che adesso è rientrato per quel motivo nel Continuum. Esatto. Quindi comunque merda, fondamentalmente. Però Logan ma anche questo è 20th Century Fox, eh? Sì, sono gli ultimi schioppi. Però considera schioppi. Che adesso che ti ricordo che Fox si è fusa con Disney, quindi praticamente è tutto tornato a, come si dice, all'ovile, canale televisivo. No, tutto. Tutti certo. Personaggi sono stati gli unici che sono ancora sotto Sony, però che è l'uomo ragno, che però lì hanno una parte, hanno trovato l'accordo, sì. Pure Fantastici 4, che però Fantastici 4 sono 20th Century Fox, soltanto che dopo due merdate che hanno fatto, no, il coraggio di rifarlo non ce l'avranno. Era neanche più di Fox, era di una collegata di Fox, quindi non era neanche diretta, l'avevano proprio smerdato tanto. Facciamo anche pubblicità al canale YouTube dei Video Ludica Channel, dove abbiamo pubblicato l'ultimo video di Stanley Parable. Che addirittura è arrivato a 36 visualizzazioni. Bellissimo. Ma oh, comunque è quello più visto in assoluto. Spacca, spacca, spacca, sì. Porca troia. E c'è anche un commento addirittura. Davide Gatti ci linka su, sulla chat un contenuto su everyeye.it e ci dice che c'è un lungo ragionamento sul significato del possibile titolo di Guerre Stellari episodio 9, tenendo conto di tutte le sfaccettature di Star Wars. Ma sti cazzi, scusate. Passatore è modo di masticare, prima persona. Esatto. Esatto. Davide dice però, io masticazzi, tu? Masticherei. Masticazzi, sti. Masticaspi. No, dice Davide, il titolo dovrebbe essere letteralmente l'ascesa degli Skywalker, ma sembra che il significato Rise sia stato stravolto ed è più verosimilmente da interpretare come il ritorno degli Skywalker. No, secondo me è il riso Skywalker, proprio, cioè, secondo me quando inizia il film c'è il riso abbonda sulla bocca di Skywalker, proprio il pacco di riso, cioè con la faccia di Luke Skywalker da giovane, col sorriso e fa riso Skywalker. Dottor Scotti, Dottor Scottish. A questo punto, vabbè, abbiamo detto Scotti, quindi metti quella sigla. Hai messo Scotti, che là. C'è poco da dire, veramente. Stasera c'è veramente poco da dire. No, c'è molto da dire. E ritorniamo in diretta sulle musiche di Discovery che mi sono dimenticato di alzare, ma vabbè, tanto la mano. No, si sentiva. Sentiva, ma la dovevo alzare. Va bene, la dovevo alzare. Non ribattere, per favore, per cortesia. Non contro sbattere. Sono il capitano Pike io, eh. C'hai qualcosa da dire? Sì, hai rotto il cazzo, stai zitto. Vabbè, ok. Che più o meno è così. Io sono saggio, veramente saggio, che però, ascolto tutti. Però guardi, scusa, apri la finestra, per favore. No, aprila tu. Perché non la deve... No, non me frega il cazzo, perché deve stare chiusa. Vabbè, giusto, okay. chiusa, è vero. Infatti, secondo me... Sbano, scusa, me ne prendi l'uovo di Pasqua, per favore, lì? No, ma quale uovo di Pasqua? No, non lo puoi mangiare. Ma allora voleva la colomba una volta. Esatto, abbiamo detto la colomba. No, ma perché? Mi dovete dare una motivazione, scusa. Perché tu te devi mangiare la colomba. Ah, ok, la colomba. Infatti, io quello là volevo la colomba e quindi vabbè. E niente, questo insomma è più o meno questo è Capitano Pike, uno dei personaggi più decorati della storia della flotta stellare. Ma probabilmente perché è sposato e quindi c'ha queste reazioni di autodifesa. Non è sposato. Non è neanche questo, cioè. Poi, è proprio spia dorsale zero. Io lo posso capire adesso, cioè in questo momento lo posso capire, perché lui oggi alla penultima puntata di questa stagione sa che fa una fila di merda e quindi sai, un po' demoralizzato, cioè. E dice, vabbè, ma chi da ti ha scritto, non so, tipo un poema, non so, tu poi dopo andateci a dare un'occhiata. E, posso capire, sai, che oggi è, dice, aveva pronto. Ma lui è stato sempre Word, così, però... faccio questo. No, tu non puoi farlo perché lo dico io. Ma guardi, scusate, che se lo ragazzi, faccio è meglio. Allora, posso dire una cosa? Vabbè. Mettiamoci un attimo nei panni di uno che in teoria è il capitano di una delle più importanti navi della flotta stellare che si trova in fermo deposito perché gli schermi olografici gli hanno mandato in tilt tutti i sistemi. Allora dicono, visto che c'è stai, vai a far supplente su un'altra nave, no? Ora tu, lo sappiamo tutti, com'è la maestra di supplenza? Non gliene fotte un cazzo, perché fondamentalmente è così, sa che sta lì qualche giorno, poi magari in quella classe non ci tornerà mai più, che cazzo gliene frega di impegnarsi più di tanto. Beh, no, non è la stessa cosa, lui comunque cioè comunque ricopre una posizione importante e determinante in questo contesto che è fondamentale per il resto dell'umanità. Però posso dire una cosa, voi lo state proprio giudicando più remissivo e più, come dire, più banderuola di quanto ma non sia. Banderuola, lui è anche saggio, cioè lui c'ha la saggezza dalla parte sua, che significa personaggio. Ma a me, ti devo dire, non mi dispiace, a me quello che mi dispiace, cioè che a volte è veramente un po' ridicola sta cosa, no? Che lui dice, Michael, lei non può fare questo. No, ma io è meglio che lo faccio. Va bene. Fallo. Secondo me ogni puntata. È così, secondo me hanno voluto un po' creare la nemesi di Lorca, che ogni cosa era. No, se fa così perché lo dico io, fottetevi tutti. Ho capito, ma un capitano se deve pure, cioè, ho se capito. C'ha un'idea. Infatti, lui l'ha data questa esatto. cosa. Ma a me non dava l'impressione che vuole uno... il dialogo. Però si fa mettere in dialogo. No, lui, però è uno che praticamente alla fine Non è che una cosa, voti, dicevo come potevamo, no, vabbè, ma cambia, ragazzi, ma non perché, ma cioè, non ha mai stai... fatto così. Lui ha preso atto quando il consiglio che riceveva era giusto. Infatti, quindi fondamentalmente 9 decisioni su 10 sono cazzate le sue, perché praticamente le ha cambiate tutte. Tutte le ha cambiate. L'unica che non ha cambiato è che dice: no, tu non puoi parlare con tua madre perché ti impedisco di parlare con tua madre. 20 minuti dopo lei stava a parlare con la madre. Vabbè. Però inizialmente non l'ha fatto. Però scusate, però, invece, vabbè, invece di raccontare e spoilerare bene l'episodio, diciamo una cosa: a questo è un episodio. No, scusami. Scusa. Ti faccio il riassunto io veloce. No, mi dispiace, vi spoilerò tutta la, aspetta, tutta, aspetta, tutta la puntata. Il ragionamento poi fai tu. Vabbè, fai vabbè. Okay. Però vi spoilerò tutto. Il ragionamento è che questo è un episodio. Vi spoilerò tutto. Che c'è poco da spoilerare. No, quello vi spoilerò tutto. Questo è un episodio di preludio alla puntata finale. Cioè, tipo, ragazzi, sono rimasti 6 milioni di dollari. Porco zio. Due puntate non ci vanno bene. No, 6 milioni. Quindi allora dobbiamo mettere 1,5 milioni di euro sulla penultima e tutto il resto all in nella puntata. Non c'è problema, corridoi. E come la svolgiamo la penultima puntata? Quindi, e ve lo dico io. Quindi che succede? Aspetta. Una puntata di preludio. Succede questo. Vi ho mai detto che è stato bello lavorare con voi. Vi voglio bene. E tu che cosa pensi? È che io ho lavorato bene con te. Sulla tettina del capitano. Sulla tettina. Adesso vado a scrivere un messaggio per mia madre per dire che le voglio bene e che ho lavorato bene con lei. E tu? Ma io vado a scriverlo a mio padre e alla mia famiglia, vado a dire che mi trovo bene con voi e con loro e ho lavorato bene con tutti. Bene, e voi che cosa state facendo? Noi andiamo a lavorare al nostro progetto per mandare avanti l'astronave e salvare il futuro, ma non è che non vi vogliamo bene, anzi, registriamo dei messaggi per farlo sapere a tutti quanti. Allora, io voglio dire una cosa, no? Malgrado tutto questo a un quarto d'ora dalla morte, cioè, insomma, no, tutto questo 45 minuti. Ho un po' rosicato perché la parte centrale della stagione è stata particolarmente avvincente. Diciamo, vedi, un crescendo, vedrai che fuochi d'artificio alla fine. Già la puntata precedente l'ho trovata un po' moscetta, però durante i titoli di testa di questa puntata appena trascorsa, quando ho visto che il regista era il mitico, ormai il miticissimo Olatunde Osunami, che non lo saprò bene una volta, ho detto: cazzo, allora è il mio regista preferito di Discovery, vedrai che sta puntata spacca. No, spacca, a spacca, punto, ultima frontiera. Ho paura di sapere quella la chiusura John di venerdì Frakes, cioè. No, che esatto. Capito? Strano, una sola inquadratura di 48.7 minuti statico. Statico Michael Lens Flare, perché vi ricordiamo che per contratto loro hanno comprato 3 minuti di Lens Flare per ogni episodio da montare obbligatoriamente da Bad Robot su ogni episodio, perché proprio se no non era il continuum, non è Kelvin futuro, non è esatto. Futuro, cioè. Niente ragazzi, episodio di una noia mortale, secondo me veramente di una smielato mortale, sì, che palle. Fai il kamikaze e non rompe i coglioni, quello devi fallo. Io posso dire una cosa invece sul nemico della stagione, cioè questa IA controllo, che a tutt'oggi è quello che ricordiamoci in originale si chiama Speak and Spell. Speak and Spell, secondo me si chiama Control. No, vabbè, era battuta sul grillo parlante. Vabbè, Control, quella dei profilattici. E praticamente posso dire che è la minaccia meno minacciosa che abbia visto negli ultimi 10 anni, cioè non mi ha dato in tutta, no, più che meno minacciosa, forse meno carismatica. Carismatica poco, la carismatica, ma di minaccia ne però sta la minaccia c'è, dei problemi, sì, c'è. Però in tutta quanta la stagione è quasi più preponderante la ricerca di sto cazzo di Angelo Rosso, cioè del mistero dell'Angelo Rosso che desta IA. Vabbè, cioè però è veramente passata in sordina. Perché la IA in realtà è arrivata dopo. Esatto, l'Angelo Rosso, cioè, l'Angelo Rosso in realtà, è iniziato in realtà prima. Ci stava già prima, è soltanto che non si vede. E loro non erano arrivati al punto. Esatto. Però è talmente sbilanciata che il cattivo in questa stagione c'è, cioè, proprio poco mordente. Non lo so, secondo me non è manco questo il problema, è che, cioè, secondo me il cattivo può anche essere inquietante, è che non è, non essendo un cattivo fisicamente, cioè nel senso è Dylan là, come cazzo Leland, si chiama? Leland. E poi quell'altro che trovano nuovo spazio, e poi è il computer che si protegge da solo, è quello che cazzo se pare. Skynet. Cioè, è talmente tante cose che alla fine comunque non lo identifichi, cioè lo identifichi in Leland, sì, però insomma, fino a un certo punto. Anzi, a proposito di Skynet, ma lo sapete che quest'anno esce il nuovo Terminator che si va a riagganciare direttamente a Terminator 2? Sì, cancellando Salvation. Esatto, cancellando decenni di film de merda, in cui tornerà Sarah Connor interpretata da Linda Hamilton. Vecchia cadentiera, però speriamo bene. È ancora cazzutissimo. Però per essere sicuri, Joe Connor sta tutte le No, il problema è che non l'ho visto, cioè in alcune foto ho visto che c'era lei, un'altra secchetta piena di cicatrici e una ragazzetta perché mo va di moda di fare i film al femminile. Assolutamente, le principesse Disney hanno rotto il cazzo, cioè perché principesse Disney in generale, cioè, non so, principessa Disney e Sarah Connor te cambia i connotati con una manata, ecco, il problema è quello che hanno preso il personaggio femminile più cazzuto degli ultimi 30 anni e gli hanno attornato altre donne che lo sminuiscono poi alla fine, perché cioè che Magari delle frignacce. Allora, due sono le cose, Marco: o perché porella Linda Hamilton più di tanto gna fa, e allora hanno detto vabbè, le scene d'azione le facciamo fare a personaggi un pochino più giovani, tu sarai il leader carismatico. C'è sta pure, ma sai che la situazione è che l'hanno preso? Sì, sì, per forza, solo quindi, che ormai cazzo, farà il Terminator, tra l'altro, 800, attempato. Il Terminator vecchio. Sì, sì, con i capelli grigi. Perché... Ma avete lasciato qua, sti pezzi. Maledetti! Maledetti! Vabbè, ricordatevi sempre che c'è la computer grafica. No, c'era già. Ci sono già lo Schwarzenegger ai capelli brizzolati, probabilmente. Ma c'era già lo Schwarzenegger in Terminator Genesis 3 o 4. Genesis, c'è lui in versione 1984. Che poi lo fanno bruciare così almeno non si vede, troppi soldi. Sì. Sicuro. Vabbè, comunque, questo è un episodio, appunto, di preludio, perché insomma, e quindi tutti piangono e tutti si vanno bene. E alla fine, comunque, da metà stagione in poi, ma c'era sempre questa tendenza, il personaggio principale, che è Michael Burnham, giusto? Sì. Che praticamente prima viene, cioè appare, diciamo, nella prima stagione come la tizia che è stata educata dai vulcaniani, quindi sempre un che po' tutto non si scompone, che non si scompone neanche mai, se la prende a bastonate, a piagne, a rotta dei colpi. Ma quello secondo me ci può anche un senso, perché dicevo, io per 25 anni non ho potuto versare la lacrima perché stavo con i vulcaniani, ero già, mo me la piango tutto, però non ho potuto piangere, proprio crisi ormonale da morire, sì, e quindi c'era un po' imporcato. Io spero soltanto una cosa. Ora, ragazzi, io non so, venerdì tireremo le somme. Speriamo non le cuoia. Però allora, io c'ho un po' paura, perché da quello che ho capito la prossima stagione non sarà nel 2020, non sarà quest'inverno, ma scavalerà Picard, di almeno un anno. Io spero che non ci lasciano con un cliffhanger del cazzo. No, perché io faccio le bestemmie ideologiche. No, anche perché ripeto, in questa, loro lo hanno detto, in questa stagione si deve spiegare, spiegano tutto, sì. Quindi devono spiegare. Ora, siccome ha una puntata, ma non lo capiremo, il problema qual è? Che se hanno puntata alla fine non hanno ancora spiegato un cazzo di niente. Pensa che potrà essere questo episodio di venerdì. Allora, di quello che hanno premesso è che si sono spinti veramente in situazioni paradossi, temporali, come se non ci fosse. Per sbrigarsi a spiegarlo, l'unica possibilità è che tutta la tecnologia legata alla Discovery, quindi il motore a score, eccetera, eccetera, sparisce in un universo alternativo. No, va mille anni nel futuro. Lo sappiamo, già, questo, cioè, è l'unica cosa che sappiamo. Ma in realtà, no, aspetta, cioè mille anni nel futuro da quando gli è stato dato l'ordine, che in teoricamente dovrebbe averlo già mandato nel futuro, quindi sono 2000 anni nel futuro. Ma pure 5000, questo non vuol dire che sparisce dai registri. A prescindere da questo, quando fatte cose hanno fatto, quando loro cercano di distruggere la nave con l'autodistruzione remoto, Pike dice una cosa importante. Lui dice: salutate la nave, salutatela come merita, perché non ne vedremo mai nessuna uguale. Quindi, certo, già lì te dice: c'è più una rete del, cioè, esatto, motore, niente micelio, niente nave, un qua a maniera, è come se non fosse, non esiste, cioè, capito? Tutto un po'. Vabbè, ma lui ti fa capire che in qualche modo che non ci sono più, diciamo, i mezzi per costruirne un'altra uguale, ma non spiega perché poi sparisce dalla storia della Federazione il motore a no, però a comunque fa capire che loro vanno, cioè l'intenzione proprio narrativa è quella di cancellarla sta cosa. Cioè, a me piacerebbe che la puntata andasse completamente in cacciare, all'ultimo minuto arrivasse Q che dicesse: ma vaffanculo a tutti, uno schiocco di dita. Uno schiocco di dita e fa sparire. Che è sto casino? Esatto, sarebbe fighissimo. E già che ci sto, vi mando dai Borg. Borgodo. Borgo. Vabbè. Comunque, oh, dai, vabbè, allora ragazzi, gli ultimi minuti di questa puntata io credo che sia giusto celebrare. Perché appunto dobbiamo accomiatarci dal nostro compagno di merende degli ultimi mesi. Abbiamo cominciato quest'estate durante le partite. Aspetta, io ho una musica ancora più triste. Vabbè, me ne ho detto mezz'ora fa, mandammela. Io boh, non posso caricare senza durante il finale. Devi solo spegnere il tuo. Pausa. E calmati, sempre con questo atteggiamento. Da quando hai cominciato a vedere, rompi le palle. Ho alzato il volume. Ma è uguale. Cioè, è identica a quella che ci avevamo noi. Non è uguale. Se aspetti un secondo, cambia. Comunque avete rovinato l'atmosfera, vabbè. Vabbè, dai, finiamo. Tanto oh Ciccio, l'hai rovinato tu l'anno fa quando sei arrivato qui, atmosfera, sallo. E continua a farlo scorreggiando. Esatto. Quella è l'atmosfera peggiore, insomma. Va bene, dicevi, prego, te l'onore. No, insomma, tutto è cominciato questa torrida estate durante i mondiali in cui l'Italia non partecipava e noi facevamo questo speciale runtime mondiale con i grissini di Gusella. Con gli snack di Gusella, no? Io ricorderò sempre per i, come si chiamano, i pretzel in versione salatino che ci portava dal supermercato, dal discount vicino all'ufficio, il di cui Zerbino non avete ancora firmato, ma io spero che prima che lui se ne vada questa cosa succeda. No, vabbè, dai, non si fanno queste cose. Io invece... si è presentato con quella. Lui c'aveva la sua colonna sonora. Si è presentato con le pizzette dell'S Lunga. È vero, le focaccine dell'S Lunga. Le focaccine dell'S Lunga, e quella cosa ce la siamo portata avanti per molto tempo. Finalmente poi l'abbiamo dimenticata questa cosa. Perché fino a quando poi abbiamo scoperto che dentro di lui... noi l'abbiamo un po' dimenticata. Oh, sì. Lui suda dentro. Lui suda dentro. Io lo ricorderò sempre per vedere fino a che punto è riuscito a mangiare le cose. Ah, ci vuoi raccontare questa avventura col piccante che avete avuto nell'ultimo fine settimana? No, è stato divertente perché io l'ho visto la prima volta mangiare 6 supplì e ho detto, cioè, vabbè, stasera sarà particolarmente affamato. Quello era niente. Da lì è stata un'escalation senza fine. E quella è una cosa che un po'... Però mi mancheranno appunto i nostri pranzi di sabato e domenica insieme, preparavamo, facevamo, insomma... Gusella, io questa domanda te l'avevo già posta, diciamo, lontano dal microfono, ma te la rifaccio. Cosa ti mancherà di più di Monterotondo, questa amena località in provincia di Roma? Beh, il cinese in piazza, sicuramente. Il ramen, sì. Vabbè, ma più ramen, prima che te ne vai, però ce la famo. No, l'involtino non vietnamita, come si chiama quello buono fritto gigantesco? Thailandese, quello è buonissimo, raga. Dopo 10 mesi sono riuscito a ordinarlo giusto ieri sera, l'altra sera. Sì, perché le ultime due volte si sbagliava, insomma. Poi quando no, perché c'è l'involtino. Quando gli arrivava bestemmiava. Cinese, no, vietnamita e thailandese. C'è quello della concubina. Quello se l'ha imparato. Quindi ogni volta ordinavo quello sbagliato. E bestemmiava. Vabbè, comunque prima che te ne vai ci però devo anche dare io, certo. Sì, dobbiamo fare commiatarlo anche io, devo commiatare, cioè, perché è stato un onore lavorare con te, ci mancherai. Casa, sto scrivendo a casa per dire quanto volevo bene anche a loro. Tu stai scrivendo a casa per dire quanto tu gli stai scrivendo per quanto ci volevamo bene e quanto volevamo bene pure. Ok, la puntata di Star Trek. A me stessa cosa. La raccolta non differenziata di musica. Guarda, in tempo te ne sei andato. Tanto è finita la musica nel frattempo. No, non è finita. Non è abbastanza bassa, non so perché. Vabbè, io... meglio così. Tu ne devi fare da background, insomma. Comunque niente, non c'è quindi ancora. No, comunque l'esperienza dicevi del piccante è che praticamente lui ha preso il ramen istantaneo, quello cinese, tipo, sai, quelli iper piccanti. Però il problema è quelli liofilizzati, no? Che lo metti nel wok con l'acqua e quello lo cuoci e poi ci butti dentro gli spaghetti, che pure quelli vanno sempre cinesi, che sono duri com'è, però tu li butti dentro e più o meno si ammorbidiscono. Comunque il problema è che la busta era scritto in cinese, quindi non sapevamo quanta acqua dovevamo mettere su questa roba cinese. E sicuramente ce ne abbiamo messo la metà, cioè vi assicuro che secondo me era la metà esatta di quella che ci andava, perché cioè alla fine cioè se la siamo magnata, perché se la siamo magnata, ma cioè se io penso che se usciva il fumo dalle orecchie non vi sareste stupiti, insomma, che, la cosa piccante, ma perché no. Era piccante di suo, io credo che il piccante l'aveste aggiunto voi. No, no, era proprio piccante di suo in un modo incredibile. E poi c'erano i pezzi di grano, no, di grano, i granuli de pepe grossi così. Sì, sì. Cioè non capito, siamo... in radio grossi così, ci siamo mangiati, guarda, così, tipo, guarda, proprio così. 20 granelli di pepe a testa. D'altronde se anche Heidi c'aveva un cuore grosso così. Sì, e non lo facevano dire durante la sigla, che poi tutti pensavano, ma sto cuore, no? Se si fece veramente al cuore, bucio di cuore, no? Un bucio di cuore. Vabbè, comunque, Simone, quindi sì, te ne vai, ti dispiace, sì, un po', dai, sì, dire dispiace, un po' ti dispiace, molto, un po' ti dispiace, molto. No, molto no, non esagerare, esagerato. Un pochino, proprio pochino, adesso sì, che Gozzi mi si stava avvicinando, che se la, devo dire che da quando ci sei tu la gatta è diventata più socievole un po' con tutti. Tu hai rotto una barriera, lei, esatto, sì, mancherai anche, sì, perché lei. Quando i gatti problematici incontrano le persone problematiche, che poi noi facciamo un po' così sciolti, però in realtà, diciamo la verità, non si fa così. Non si viene in un posto, si entra nella vita della gente e poi se ne va via così come degli stronzi. Prima che il contratto scada, vaffanculo, capisci? Tra l'altro, anche con un preavviso così breve. Tacci tu. Ma infatti io gli avrei fatto pagare 6 anni d'affitto a buffo. Io non me ne vado, devo solo fare un intervento di ricostruzione facciale, quindi cambierò completamente forma e rimarrò qua in realtà, ma voi non lo saprete mai. No, ti assicuro che te riconosciamo appena apri bocca. Sì, esatto. Perché la riempi di roba, ragazzi, oppure sparicazzare, quindi... Cioè, noi possiamo dire di tutto su Simone, tranne che veramente non è una persona d'appetito. È una persona che veramente mangia in continuazione, mangia cose in una quantità incredibile, ma soprattutto si mangia gli agli interi. I pezzi di aglio interi, io veramente... È una cosa... Cioè, viene dalla Transilvania il ragazzo. È una cosa incredibile, cioè, quello che... Cioè, noi abbiamo visto negli anni, tra me, con me compreso, cioè, però anche altre persone che hanno fatto parte, insomma, dei nostri gruppi, delle cose che vedevamo, gersani che mangiavano come e diciamo no, no, come lui non è possibile. E invece Gusell è riuscito a battere dei record che, insomma, veramente vale la frase, come lui non è possibile. Come lui, ecco. Vi sfidiamo a battere Gusell, ma diciamo che il nostro challenge... punto di riferimento culinario, nel senso mangiare, cioè, sappiamo che il livello Gusell è un livello, esatto, quasi in arrivo. È un po' come dire Gusell la ultima frontiera. Io direi che dovremmo contattare Adam Rickman, no, per dirgli di, invece di fare Man vs Food, fare Adam Rickman vs Gusell, vediamo chi vince. Vediamo chi se mangia prima l'altro. Vince Gusell, secondo me vince, anche perché voglio dire, al fattore giovinezza dalla sua. Perché io penso che, per esempio, Gusella con una trasmissione quella non la può fare, perché lui entra dentro i ristoranti e dice: ah, fammi vedere come prepari il super panino distrutto e morte grassosa. Lui, mentre che si mangia il panino, poi dopo deve fare la scarpetta anche sulla piastra. Sì, esatto. Perché già io mica butti via il sughetto della carne. No, infatti. Come potresti, ma va bene. Detto questo, ragazzi, ricordatevi www.runtimeradio.it. Andate lì, cliccate su Runtime Anch'io, quindi partecipate alla campagna Patreon, e oppure cercateci, insomma, su PayPal, andando su non da nessuna parte. Andate, cercate, insomma, com'era, paypal.me/runtimeradio, perché ancora funziona, ma anche se per poco, insomma, ogni tanto date qualche contributo se volete, se no non fa niente. E detto questo, ci vediamo la prossima settimana, ricordatevi, mercoledì prossimo con lo specialone di Indiana Jones a Senza Gogo, prepareremo sicuramente una grandissima puntata. E a questo punto non mi rimane che dare, insomma, una pacca sulla spalla e dirgli in bocca al lupo per il tuo proseguo, per la tua esistenza, a Simone Gusella. Penso che esisterò ancora a lungo, ma non sarà la stessa cosa, non sarà la stessa cosa. Quindi coccodrilli a gogo, un pezzo di memory era qui. Infatti ringraziamo e salutiamo chi ha portato pure i pasticcini, Walter Sbano, e io saluto e ringrazio a mia volta Simone Gusella, al quale auguro una calorosa palda calda in culo. Perché sennò è peggio. E insomma, non lo so, torna in quel di Milano. Salutaci Adrian, mi raccomando. Adrian, sì, sì. Digli che quando vuole è benvenuto in diretta al programma da noi. Certo, certo. E insomma, diremo solo cose belle se viene in diretta con noi. Ah, a ottobre ha detto anche che riprende. Certo, certo. Giusto il tempo che gli passa il raffreddore. Ringraziamo e salutiamo anche Marco Gualdi, che non ha portato un cazzo. Io non porto niente, sono la mia inusitata esuberanza. Comunque. E i tuoi riassunti, purtroppo. Riassunti. Ne volete sapere un altro? di riassunto. No, questo no. Film non mi ricordo bene. Intanto in chat ti salutano, Cusella. Questa, e infatti momento... adesso stavo giusto aprendo la chat. Sono momenti bellissimi dove praticamente la partecipazione popolare. Me ne vado, bellissimo. No, infatti. Detto questo, io vi ringrazio a tutti. Ci vediamo appunto, come detto, la prossima settimana. Vi ricordo il martedì con lo speciale su Star Trek e il mercoledì con lo speciale su Indiana Jones. Per tutto il resto, insomma, c'è anche i nuovi video di We Want to Live in a Box su YouTube. Se volete, ci sono anche quelli di Videoludica Channel, che praticamente non caga praticamente nessuno, ma a noi ci fa bene così. Ma non ce ne frega niente, perché noi. Pochi ma buoni. Ciao, alla prossima puntata. Ciao.